Nerdcast puntata 1-1. Cari ascoltatori e soprattutto ascoltatrici, benvenuti ad una nuova puntata di Nerdcast, Nerdcast 1-1, dopo ovviamente 2-3 mesi di ritardo come sempre si ritorna, ma non si muore mai. Qui con me oggi finalmente dei collaboratori, si spera validi, siccome si prospetta una puntata abbastanza lunga, vi lascio subito alle loro presentazioni. Iniziamo da Luca aka Rampage. Presentati un po'. Ciao, io sono Luca aka Rampage, ho 18 anni, gioco al computer da quanto ne avevo più o meno uno. Niente, la mia arma preferita è la K47, sono un appassionato di FPS RPG, ma in generale mi interesso di un po' di informatica a 360 gradi e spero di poter condividere con voi un po' di esperienza, ecco. Wow, che guru che sei, sembri proprio un guru. Passiamo avanti, andiamo con Dario aka Garriden. Ciao a tutti, sono Dario, mio nick è Garriden, in generale qua sul Nerdcast credo utilizzeremo quasi esclusivamente i nick. Beh, sì. Che dire di me? Sono un ingegnerando, studiando ingegneria informatica e forse l'informatica è una delle mie più grandi passioni, mi occupo soprattutto di molto di hardware e in generale tutte quante le news dell'informatica sono il mio campo e spero che possano essere più interessanti possibili quelle che vi propongo, insomma, quelle che sì, vi proporremo. Avrei modo di dimostrarcelo subito. Finiamo con l'ultimo, ma non ultimo, per cui abbiamo Alessandro aka Malloman, prego. Salve a tutti gli ascoltatori, sono Alessandro, il mio nickname è Malloman, ho anche io 18 anni. Sono appassionato di FPS, GDR, insomma vari videogiochi e sono molto felice di essere qui con voi a condividere e commentare le varie notizie dal mondo dei nerd. Perfetto, la formazione è fatta finalmente. Ah sì, io rimango io. Mi conoscete tutti, Francesco aka Murtag, da questo momento in poi. Sono nato all'età di 3 anni e studio tanto il letto, cioè mi piace dormire, soprattutto dormire e non fare niente tutto il giorno, ma questo lo sapete già. Benissimo, prima di iniziare subito con questo Nerdcast completamente rivoluzionato, diamo i contatti velocemente. Allora, l'email del podcast nerdcast@gmail.com, il blog di riferimento è nerdpodcast.blogspot.com, il Twitter mio personale ma in generale anche di Nerdcast è www.twitter.com/nerdfats. Anche questi tre bei ragazzoni hanno il loro Twitter, volete darlo? Sì, anche se credo che comunque lo scriveremo nelle news, sì, vabbè, nelle news del blog. Comunque il mio account è Wish Freedom. Poi c'è, non so, poi? Dario Malloman? In generale potete trovarmi a DevilSeer92 come nick su Twitter. Vi faccio notare che la pagina di Twitter ha appena cambiato grafica, che emozione. Sì, infatti è molto emozionante, l'ho notato anch'io. Malloman, il tuo Twitter? E il mio è Malloman. Malloman semplicemente. Perfetto. Da poco abbiamo creato anche il gruppo di Facebook. È stato il nostro bravissimo Rampage ad aprirlo. Bene, dopo queste doverose presentazioni e contatti, iniziamo con la prima parte di Nerdcast, diciamo Nerdcast 2.0. La prima parte sono le Nerd News. Nerd News. Perfetto, Nerd News, una news ognuno, anzi tre news ognuno. Iniziamo da sottoscritto. Iniziamo parlando del Wii. Adesso l'unica premessa che mi sento di fare è che tutti noi quattro siamo apertamente dei giocatori PC, se mi confermate, appunto. Non credo che ci siano dei consolari. Sì, no. PC. Confermo. PCisti, perfetto. Quindi una notizia del Wii, insomma, almeno a noi quattro lascia abbastanza indifferenti. Però, quello che è in un certo senso interessante vedere è che il Wii sarà la prima praticamente console della nuova generazione. Adesso questa generazione attuale con 360, PS3 e appunto Wii base sta per finire. Alle 3 il nuovo Wii verrà presentato. Non ha un nome vero e proprio, non ufficiale. Non si sa neanche se verrà presentato con sicurezza. Si sa soltanto che si vocifera di un possibile Wii, di un quasi sicuro nuovo Wii, detto Wii HD. Le specifiche sono abbastanza poche. Non sappiamo benissimo di cosa si tratti ancora. Però da quel poco che sappiamo possiamo dire appunto che avrà una potenza grafica sicuramente migliore di quella del Wii attuale. E è importante sapere anche che ci sono state le indiscrezioni rispetto a un nuovo tipo di comandi utilizzabili per i giochi del Wii, Wii HD anzi, o Nintendo HD, insomma, come verrà chiamato. Sarà retrocompatibile con i giochi del Wii e credo anche GameCube, forse. Non ne sono sicurissimo. Le specifiche hardware sono le seguenti. C'è una ATR 700, serie R700. Sappiamo che quella dell'Xbox 360 è una ATI serie R500, quindi già sappiamo con sicurezza che il nuovo Wii dovrebbe essere anche più, teoricamente più potente. E c'è scritto anche almeno 512 MB di RAM, che adesso io non sarò un esperto di hardware, però per una console 512 MB di RAM sembrano, cioè sicuramente per una console next gen dovrebbero essere un po' di più. Non so voi cosa ne dite, però a me sembra sinceramente che sia una, cioè io personalmente non l'aspetto con fin troppa impazienza. Poi sicuramente, non essendo noi consolari, non ci metteremmo ad aspettarla, credo. Almeno io non l'aspetto. C'è qualcuno di voi che l'aspetta? No, non in particolare, però sto notando, diciamo, da alcuni rumors che anche lo stile dei giochi, più che altro, che hanno intenzione di lanciare assieme a questa nuova ipotetica console, sono leggermente diversi nel gameplay da quelli che, in teoria, quelli che l'hanno giocata fino ad ora devono aver fatto esperienza. Per esempio, sì, c'è un gioco che sta venendo sviluppato, un FPS in particolare, quindi entriamo anche nel mio campo preferito, che pare sia Metroid Prime, che dovrebbe essere il gioco al quale gli studios stanno lavorando per lanciare questa Wii 2. Non so se tu me lo confermi, magari sei più informato di me. Io sinceramente i giochi lancio non so molto, però so di sicuro che ormai, cioè, si sa che il panorama Wii è incentrato sempre su un gioco più casual che hardcore. Cioè questo ormai si sa. Ma nonostante questo, anzi, grazie a questo il Wii è diventata la console più familiare, casa, più venduta, più giocata. Perché poi sappiamo che in generale la console più venduta, anche tra le portatili, è il Nintendo DS. Però parleremo meglio anche del 3DS fra poco. Andiamo con Dario, meglio Garriden, sì, dimmi un po'. Sì. Beh, prima della mia notizia vorrei prima esprimere un piccolo parere sulla Nintendo Wii, fare notare una piccola, sì, moda che sta uscendo, insomma. Sì. Se si nota bene, tutte quante queste console stanno scendendo stanno scegliendo questa nuova generazione da un punto di vista un po' diverso di quello della PlayStation 3, Xbox 360, mentre prima si puntava veramente all'hardware, alla scelta e soprattutto si puntava a fare giochi di una certa qualità. Adesso si sta puntando a delle altre cose. Ad esempio, io sto notando, se la Wii supportava i 480p come risoluzione, adesso c'è veramente il boom dell'HD, cioè chiunque cerca l'HD cerca il full HD in una console, non tanto la grafica quanto vederla gigantesca. È un qualcosa di strano, però sta cominciando ad avere un senso, e sta cominciando ad avere un senso qualche scelta della Nintendo che magari prima poteva sembrare strana. Ad esempio, quella dei controller sta diventando veramente una cosa incredibile, perché prima, insomma, il joystick era un qualcosa di universale, invece Wii ha mostrato che il joystick può non esistere, insomma. È proprio con questo che mi collego un po' alla mia news, che è un sistema di controllo abbastanza interessante quello che ha proposto un'azienda abbastanza sconosciuta, se non siete nel campo, che si chiama Tobii. È sconosciuta, decisamente. Sì. Ha tirato fuori un qualcosa di abbastanza interessante, che è un sistema che loro hanno chiamato PCI, che non è altro che un sistema eye control, insomma, non è altro che un tracker per i vostri occhi. Un piccolo sistema che si può comodamente, secondo loro almeno, collegare al vostro computer per seguire i movimenti dei vostri occhi. Sostanzialmente, come il vostro computer interpreterà l'input non ne ho la più pallida idea, e a che cosa vi possa servire nemmeno ne ho la più pallida idea, ma la cosa certa è che è nata bello, come... vero? Sì, sì, no, è stupendo, però è nata come una tecnologia assistiva, quindi serviva a bambini disabili, suppongo, perché addirittura nel loro sponsor dicono molto, beh, un po' banalmente, dicono: ah, finalmente i bambini disabili potranno giocare con gli altri grazie al tracking degli occhi. Certo, è una trovata pubblicitaria abbastanza divertente, però che persone generose. Sì, indubbiamente. Però al di là di questo, l'eye tracking è un qualcosa di interessante e davvero mi fa pensare ai sistemi. È una base da cui partire, sicuramente. È una base da cui partire. Da sì, in effetti è molto interessante capire anche che tipo di studi sono stati fatti. Perché partendo da un presupposto di poter utilizzare comunque queste tecnologie per qualcosa di più. Non voglio dire di più utile, ma comunque più aperto anche a tutti gli altri, no? Secondo me sicuramente apre molte porte. Sì, assolutamente. Ripeti un attimo il nome, si chiama? Il nome è Tobii PCI. Tobii PCI, perfetto. Rampage, tu ci vuoi parlare di... Sì, allora io esco un po' fuori dal campo con cui abbiamo introdotto queste nerd news e ritorno un po' nel mondo del net gaming più a livello pratico. In particolare vorrei parlare di una sandbox che, per chi non lo conoscesse, comunque si tratta di, come possiamo dire, delle realtà, dei giochi, diciamo, a mondo aperto, in cui sostanzialmente i videogiocatori non hanno la necessità di seguire un filone particolare, diciamo, non sono limitati all'interno di missioni, ma sono liberi di creare personaggi e scenari a loro piacimento, e ce ne sono varie, diciamo. Una della più importanti, che fra l'altro è supportata anche da Steam, è la Garry's Mod. La Garry's Mod, che è una delle più famose, ed è a pagamento, è l'unica, è, mi, diciamo, pare 9,50 euro, non vorrei dire una cavolata. Sì, più o meno costa quanto gli altri giochi Steam, più o meno a livello di abbonamento. E comunque, come ogni gioco Steam a pagamento, gode di una certa grossa percentuale di, tra virgolette, hacker che si sono divertiti a bypassare in qualche modo i sistemi di controllo per accedere alla versione internet, comunque, di Garry's Mod, regalando delle licenze false sostanzialmente, e quindi danneggiando in un certo senso la casa produttrice della Garry's Mod. Ora, si dà il caso che Gary Newman, che vanta di essere il produttore principale della Garry's Mod, abbia rilasciato un upgrade molto interessante che faceva sostanzialmente apparire un errore numerico sulla schermata dei pirati che c'erano a Garry's Mod, che in questo modo, diciamo, sono caduti in una sorta di tranello, perché questo errore accadeva soltanto a quelli che avevano le licenze false, che quindi hanno per esempio bombardato di domande Yahoo Answer ricevendo nient'altro che la derisione degli altri. Esatto, quelle domande da bimbi con invii, chiocciole, punti esclamativi seguiti da uni e due sì, con la più grande disperazione di questo mondo, diciamo. Ne sono stati beccati più di 2500. Ma la cosa più interessante è che Garry Newman non ha intenzione di bannare queste persone, ma di in un certo senso sputtanarle soltanto di fronte a chi aveva realmente acquistato Garry's Mod, che in questo modo ha avuto la possibilità e ha ancora la possibilità di deriderli e riconoscerli facilmente mentre giocano online. Diciamo che nessuno si è arreso agli hacker ancora, cioè ancora stanno cercando di trovare un modo per sconfiggerli, forse definitivamente direi che è quasi impossibile. Però nessuno ancora si è fermato. Sì, sono passati ad un tipo di offesa più a prendere in giro più che alla vera repressione. Sì, in effetti io sinceramente però non l'ho capito perché. Cioè, io lo vedo più come uno schiaffo morale, nel senso, cioè, non pensate che io non lo so. Un po' come i professori quando fingono di non vederti mentre li insulti da un banco di distanza, no? Però come sappiamo, esatto, però come sappiamo... gli hacker sono si arrabbiano facilmente quando vengono presi in giro. Cioè, sappiamo per esempio che molto velocemente quello che è successo a Sony è perché, cioè, è stata piratata perché ha dato in un certo senso fastidio agli hacker, più precisamente all'organizzazione Anonymous degli hacker, quindi è stata presa proprio di mira. Non lo so, io sinceramente non capisco il fatto di prendere in giro gli hacker. Magari sì, chi pirata non è sempre un hacker vero e proprio, anzi, nel 90% dei casi sono coloro che non sanno un H di informatica, però... Beh sì, infatti ci saranno stati due o tre con certe competenze che avranno comunque dato, come sempre in questo mondo, comunque la possibilità ai bambini di 12 anni di tornare a casa dopo essersi mangiati la loro merendina e connettersi gratuitamente a Garry's Mod. Viva i torrent! Sì, infatti, comunque Garry's Mod ha rilasciato, diciamo, una specie di Garry Newman. Ha rilasciato una specie di intervista in cui ha riferito che questa sua azione è stata dovuta più che altro a una specie di far sentire la presenza della casa produttrice agli utenti tra virgolette leali. Lui dice: se non avessi preso contromisure alla lunga, gli utenti si sarebbero sentiti truffati perché avrebbero potuto piratare la loro copia senza problemi. Quindi, non so, secondo lui è più anche dei fini educativi questa sua presa di posizione. Infatti. Va bene, perfetto, passiamo avanti. Malloman, prego. Sì. Allora, io vi parlerò di un nuovo tipo di mouse, che è appunto l'Evo Mouse della Celion. Evo Mouse, che sta per Evolution Mouse, vero? Di Evolution. Sì, Evolution Mouse. E praticamente questo dispositivo, più che essere un vero mouse fisico, è un dispositivo che ha due sensori infrarossi che registrano i movimenti della nostra mano, e attraverso questi possiamo fare sia ciò che potevamo fare col mouse, che anche fare diverse altre cose, come ad esempio, non so, allargando le dita si fa lo zoom, oppure si può tornare indietro o avanti nella navigazione. È una specie di mouse invisibile, praticamente si vede dal video che ovviamente metteremo nelle note dell'episodio, però in effetti è proprio una specie di luce, no? Una luce che irradia praticamente la parte dove dovrebbero stare i mouse fisici, e invece ci stanno solo le dita, che praticamente si muovono e fanno a mo' di mouse, in pratica. Sì, comunque dobbiamo dire che funziona praticamente su qualsiasi superficie piana, richiede anche molto meno spazio rispetto a un mouse tradizionale, tiene anche traccia dei nostri movimenti qualora, non so, si volessero fare le azioni, non so, si possono insomma registrare dei movimenti. Anche come ho detto, le funzionalità multitouch anche per scorrere, ruotare, zoomare. E inoltre, cosa che secondo me piacerà molto a Gary, evita anche le lesioni da stress al tunnel carpale, in quanto non essendo un oggetto fisico, non sottopone a stress i muscoli della nostra mano e perciò non ci farà infiammare il tunnel. Sei contento, Garry? Un malato terminale, mi ha fatto sembrare. Sei contento, Garry? No, guarda, al di là di questo io rimango veramente scettico davanti a certe cose che si portano avanti ultimamente. Cioè, è una trovata interessante, però davvero questa scia del touch comincia a diventare una cosa un pochino strana, un pochino anormale. Cioè il tempo che si impiega a imparare a utilizzare queste periferiche in tutte le loro potenzialità non so se veramente vale rispetto ai sistemi di adesso, anche a livelli di precisione. Sì, sicuramente con l'Evo Mouse non ci puoi giocare a Counter Strike. Volevo dire proprio questo, che secondo me più, al massimo potrà diventare una periferica per famiglie, diciamo, ma penso che i videogiocatori si guarderanno bene da un passaggio del genere, in quanto sicuramente per bambini disabili. Sì. Penso anche che se... nonostante il mio tunnel carpale continuerà a insultarmi quando ogni volta riprenderò in mano il mio buon vecchio Razer, comunque non penso che questo bel cagnolino, perché è anche una forma interessante comunque questo possa mai sostituire anche di usare altri oggetti. Ad esempio, se noi volessimo disegnare, possiamo prendere in mano una semplicissima penna e l'Evo Mouse comunque riesce a identifica anche la penna e quindi abbiamo movimenti molto precisi, o anche se dobbiamo fare una qualsiasi altra cosa che possiamo fare, diciamo, con una penna o simili. Sì, infatti. Speriamo di vederlo sui nostri tavoli nel modo più economico possibile. Non ci credo proprio, sinceramente. Neanche io. Non ci credo proprio. Va bene, andiamo avanti. Allora, torniamo a parlare di Nintendo velocemente. Ritorno a parlare di Nintendo. Sappiamo tutti che è appena uscito il 3DS, il nuovo portatile Nintendo, forse il quinto DS della serie. Perché ha venduto nella prima settimana 400.000 copie, credo in tutto il mondo, adesso qua non viene specificato, ma ha venduto 400.000 copie. 400.000 copie sono in realtà per una console che doveva praticamente spaccare, come Nintendo 3DS, un po' poche, o almeno così sono state considerate, anche perché il DSi o DSi aveva fatto 500.000 nella prima settimana. Adesso ci sono state varie critiche rispetto al 3DS, console innovativa ma sempre un po' la stessa, eccetera. La critica maggiore che è stata rivolta forse alla console è che in realtà non è una critica intrinseca della console, è che è uscita in un periodo di dimagra per quanto riguarda i giochi, perché tranne Street Fighter 4 e Pilotwings Resort molti sono abbastanza di bassa lega, non tutti però, diciamo, oltre a questi due. La mia questione era, non essendo noi interessati in alcun modo al 3DS, non lo so, come le vedete voi queste console portatili? Perché adesso anche l'imbattibile 3DS, che ha venduto più di tutti, più di tutto quanto, qualsiasi periferica eccetera, sta iniziando in effetti un po' un declino che è iniziato già da un po' di tempo con Wii. Per così tutto, voi non avete un DS, vero? Nessuno ha un DS? No. Siamo poveri. No, io invece un DS l'ho, ma sinceramente l'ho usato pochissimo. Mi devo aspettare che nessuno di voi sia interessato al 3DS. Guarda, a livello di acquisto lo credo lo escludiamo, perché non per, insomma, Muoviamo una critica. Queste console sono interessanti, ma si avvicinano molto più al casual gamer per alcuni motivi, Certo. Sì, concordo. Mi sembra proprio quel tipo di periferica. E soprattutto hanno un prezzo che non è veramente proporzionale al tempo che un gamer ci impiegherebbe. Mi pare che il 3DS mi venga 2,50, se non sbaglio. 2,50, che alla fine è un prezzo onesto per la periferica in sé. Tuttavia, se ci vogliamo pensare bene, è una questione molto di vita, insomma. Se le console portatili hanno un senso quando si viaggia, hanno un senso quando non sei a casa tua a goderti il tuo surround 7.1, e allora decidi di prendere la console portatile. Sì, sicuramente. No, io il problema è che questi bastardi della Nintendo mi hanno fottuto perché fanno uscire i Final Fantasy esclusivi solo per 3DS, per DS. E io sono costretto a comprarmele queste console, capito? Sono costretto a comprarle perché non mi va di piratare dei giochi così belli e quindi io me li devo comprare. Quindi spero che non facciano uscire una roba tipo qualche Final Fantasy troppo attizzante, perché sennò mi dovrei comprare pure il 3DS. La cosa sinceramente non andrebbe. Comunque in generale il DS era una periferica interessante, cioè di per sé forse fra quel taglio di periferica era la più sensata. Il 3DS davvero mi sembra un'aggiunta un pochino superflua per alcuni motivi, in generale. Per la feature principale non mi entusiasma più di tanto. Mi sembra un buon riciclo, sì. Mi odieranno, logicamente mi odierà chi no, vabbè, ma sei un ingegnere informatico serio, diciamo. Ah sì, io? Vabbè. Quindi, tra l'altro, io ho avuto modo di provare a giocare col 3DS, comunque il rendering dell'immagine 3D non è poi il massimo. No, io ancora non l'ho visto, sinceramente. Volevo andarlo a vedere, ma non cioè proprio non ho avuto alcun interesse. Ma immagino, ma quindi bisogna indossare degli occhiali? No, è proprio questo il punto. È senza occhialini che si gioca. E secondo me anche per questo la qualità dell'immagine che si vede poi nello schermo non è... Non rende poi, cioè non ti sembra di giocare realmente. Sì, in effetti 3D. La nostra tecnologia del 3D ancora è piuttosto a livelli piuttosto bassi già al cinema con tutti gli occhiali. Non voglio immaginare con uno schermo così piccolo. Ma guarda, ma non si... Cioè tu, voglio dire, se non lo sai, non pensi proprio, sì, che è in 3D. Non sembra. No, ma infatti... Poi il 3D mi sto convincendo a odiarlo, mi sto ritrovando a odiarlo dopo che qualunque film viene fatto in 3D, qualunque film io non riesco a capire questo 3D dove lo veda, no? A parte i 3 euro in più del biglietto del cinema. A parte Avatar. E poi nel fatto, a parte Avatar, il 3D è scomparso. Che però lo facevano da 10 anni, avevano cominciato a farlo quel film, prima ancora che inventassero il 3D. Quindi, cioè, poi se non c'era Avatar, non c'era il 3D. Comunque. Cioè, dovermi mettere nel 2011 un paio di occhiali per vedere uno schermo mi sembra una cosa fantascientifica. Poi sforiamo in altri discorsi che riguardano altre volte. Assolutamente. Bene, Garriden, vai. Vi porto la prossima news, che è una news un pochino più informatica. E devo dire, c'è veramente poco materiale sulla quale lavorare, però. In generale si sta vociferando che per la rete giri una beta di Windows 8. Ora, per tutti quanti gli amanti di Windows sarà sicuramente una notiziona. Io personalmente sono un utente Windows indubbiamente, ma non sono veramente entusiasta delle ultime scelte di casa Microsoft. Dillo che usi Fedora, dillo apertamente. Io sono uno user Fedora, insomma, però un meticcio schifoso. Sono uno schifoso meticcio, ma più che altro mi cimento anche a provare queste cose per voi, vedete, siete voi che non apprezzate. No, al di là di questo. Al di là di questo, cosa vi posso dire? Che Windows 8, da come ce l'hanno presentato, è davvero una piccola, ma veramente piccola e poco interessante evoluzione da Windows 7. Certo, sulle beta io non mi fiderei mai, in particolare perché si tratta più di voci che dell'effettiva beta da prendere in mano. In generale l'interfaccia è molto molto simile a quella di Windows 7 e, da quello che si dice sempre dalle feature, si pensa ad un avvio ancora più veloce. Allora, questa notizia per me è stata davvero ridicola, in quanto già per Windows 7 si era pensato di fare l'avvio incredibilmente veloce. Ora, tanto più è veloce l'avvio del vostro sistema operativo, tante meno funzioni avrete. Non è una cosa totalmente vera, ma ci stiamo avvicinando, insomma. Io direi che casa Microsoft dovrebbe pensare a fare sistemi un pochino più funzionanti e un pochino meno veloci, perché è un problema che si ci arriva dopo, magari 15 secondi aspetto. Ma perché Windows è veloce? No, oddio, devo dire una cosa, che Windows 7 aveva dei tempi di apertura decenti e credo per l'utente normale davvero veloci. Al di là di questo, io sono un 7 user da ormai quanto, almeno un anno e mezzo. Devo dire che sì, nulla da dire, è quasi al livello di Windows XP, nel senso che sicuramente Vista è stato XP un grande sbaglio. Sì, nel suo tempo, nel senso che sicuramente Windows Vista è stato un grande sbaglio, nel senso che quando l'ho avuto, cioè, è stato terribile, perché sì. Purtroppo no, io non l'ho mai installato, rilasciavano Vista, le DirectX che funzionavano soltanto con Vista, e non si poteva fare a meno di utilizzarlo, per me che almeno volevo giocare con sì, ricordo la questione della DirectX, è stato storica. E purtroppo dovevo stare là ad aspettare quanto, almeno 7 minuti di startup, per non parlare dei miliardi di permessi amministratore per aprire anche la cartella delle foto dell'ultimo compleanno, cioè era permesso un di usare il mouse, il computer, tutto, il permesso di usare la vita, diciamo. Sì. Permesso di andare al bagno. Allora, guardate, l'ultima al cosa di là che di leggo questo... che... Sì, dici. Sì, no, prego. No, leggo appunto riguardo alla news, leggo che si può trasportare il proprio sistema operativo, vero? Sì, con, sì, cioè, dovrebbe essere. Trasportare l'intero sistema operativo di Windows, diciamo 8, chiamiamolo Windows 8, nella chiavetta USB, cosa che in realtà con gli altri sistemi Linux si poteva fare, se non sbaglio, vero? Sì, no, indubbiamente, vabbè, la portabilità era un qualcosa che in Linux era già insita, perché c'erano distribuzioni nate per questo. Allora mi viene a chiedere, chissà se ci saranno più versioni di Windows per poterlo fare, una versione unica che loro giudicano portable. Non so se avete mai provato a trasportare una versione di Windows 7 da una parte all'altra per poi trovarvi il terribile messaggio che la vostra licenza è stata copiata e l'hardware del sistema è diverso. Pessima esperienza l'ho avuta. Ecco, ottimo. Allora dico, speriamo che nel caso di Windows 8 non vi capiti. Al di là di questo, no, cosa vi posso dire? Usare la beta non è per niente legale, però dateci un'occhiata che magari può essere interessante per il vostro prossimo acquisto, visto che parliamo di acquisti da 250-300 euro se volete una versione decente di Windows. Tanto vale darci un'occhiata, insomma, ecco. Sì, infatti. Malloman, prego. Allora, io invece volevo parlarvi di un nuovo prodotto della Asus che è chiamato iPad. Come sapete, l'Asus ha la linea di computer III e appunto hanno fatto questo nuovo computer che praticamente è sia un net PC, diciamo, sembra un netbook, però in realtà la parte dello schermo si può staccare e fungere da iPad. Sì, è vero, ho visto. Da un tablet, insomma. Sì. Appunto, diciamo, descrivo un po' le componenti. Allora, monta come sistema operativo Google Android 3.0, l'Honeycomb. Poi, vabbè, ha la connettività in Wi-Fi, ovviamente. Memoria RAM da 1 giga. Poi gli hard disk sono allo stato solido, non hanno una grande capacità solitamente, però vabbè, diciamo che Asus offre per un anno spazio sul suo web storage che è illimitato, quindi insomma se proprio si riempie si può sfruttare il web storage. Sì. Ha due fotocamere, quella posteriore che è la principale da 5 megapixel, mentre la secondaria da 1.2. Ha un'ottima risoluzione, direi, perché ha 1280x800, è multitouch, è molto leggero, soprattutto pesa 700 grammi, se non sbaglio 680 per la precisione, e niente, ha anche... Sì, è molto interessante. Io sinceramente vorrei aggiungere qualcosa, però di hardware in questa maniera proprio non me ne intendo. Non so, Garriden. Guarda, a me onestamente questo Beh, non so come chiamarlo, lo chiamiamo tablet, lo chiamiamo PC, qualunque cosa sia. Si chiama iPad. L'applet. Ah, bellissimo. Ok. Beh, si chiama iPad. iPad, della serie i. Comunque io devo dire, ho sempre apprezzato le scelte che ha fatto Asus in termini di i, insomma, di roba netbook e simile, perché hanno fatto una politica interessante. Mo il fatto che monti dei solid state, comunque come gli scrigi, fa capire che è roba di una certa qualità. Certo, sì, sì, sarà infatti piccolino quanto vuoi, ma la velocità ce l'hanno, e davvero era un problema. Se avete avuto fra le mani un netbook, l'avrete notato quanto sì, è un problema. Sì, io ho proprio un Asus della serie I, e l'hard disk allo stato solido è una differenza abissale. Sì, ma a parte questo, devo dire che hanno anche un bel design. Molti netbook sono fatti per rompersi. Devo dire che l'Asus sta facendo anche dei netbook relativamente solidi, non fra i migliori a livello di costruzione, ma abbastanza solidi. Mi sembra un buon acquisto, i prezzi anche abbastanza onesti. Sì, sì, comunque diciamo il modello in un certo senso base in $400? No, €399 sì, viene qui in Italia. E poi vabbè, ci sono male. Io ho descritto prima le caratteristiche del modello base, appunto questo da €399. Però poi vabbè, ovviamente ci sono anche le versioni più avanzate che costano anche, arrivano anche se non sbaglio a €700-800. Perfetto. Ad esempio è possibile anche acquistare la dock con €149 aggiuntivi. Vabbè, vedremo meglio quando uscirà probabilmente. Andiamo avanti. È già disponibile. Sì, si può già acquistare, sì. Davvero? Sì. In Italia ancora non è disponibile, ma potete beccarlo sul web. Perfetto. In Taiwan, sostiene la news del sito. In Taiwan, per questo mi sembrava strano. Cioè, vabbè. Ci arriverà assieme ai prossimi palloni della Nike, questo. Io veramente ho preso il dépliant delle offerte di MediaWorld pochi giorni fa, è già in vendita. Ah, ok, vabbè. Quindi, molto strano. Vabbè, no, ma in effetti non dovete andare in Taiwan per comprarlo, che si può comodamente acquistare da MediaWorld. Perfetto, ok, andiamo avanti. Dunque, iPad versus PC. Allora, una mini premessa anche qui. Chi ha seguito Nerdcast nelle prime puntate saprà che il sottoscritto contro diciamo roba Apple, che sia iPad, che sia Macintosh, che sia iPhone, è abbastanza schierato, nel senso che purtroppo da me non avranno mai un soldo. E questo è ricambiato dai miei tre colleghi qui, che hanno diciamo un amore matto, vero? Per i sistemi Apple. Eccomi. iOS, vero? Soprattutto Garriden è un grandissimo estimatore dei... Allora, fortunatamente non mi sono mai sporcato le mani di bianco e di quella roba lì. Però insomma, ne parliamo quanto più... non lo so. Insomma, cerchiamo di non essere di parte, dai, ci proviamo. Cerchiamo di non parlarne. Diciamo che se siete dei fanboy Apple, di qualsiasi cosa che Apple faccia, non dico che questo non sia il vostro podcast, però insomma. Allora, statene alla larga, insomma. Allora, oppure ascoltate con prudenza. Disprezzo. Dunque, cosa devo dire rispetto ad iPad? Allora, partiamo da un dato. Sappiamo che nel primo quarto del 2011 il PC in generale ha venduto, i sistemi PC hanno venduto 84.3 milioni di unità. Un buon risultato. C'è stato però un declino dal primo quarto del 2010, perché c'è stato un declino dell'1.1 milioni, un declino abbastanza considerevole. Perché questo? Un analista di Apple, tale Mikako Kitagawa, allora dice che la povera domanda di PC, se povera si può considerare insomma una domanda di 84 milioni, la povera domanda di PC è stata a causa della, diciamo, dell'avanzare sempre più impetuoso del nuovo iPad, che dice di insomma stare pian piano sostituendo il mercato PC. Cioè, in pratica dice l'analista, questo analista dice che fra qualche anno, fra un bel po' di anni, i tablet come l'iPad sostituiranno quasi completamente, o comunque surclasseranno i PC. Scusa, sono allergico alle idiozie. Sì, vabbè. Perché lui dice che c'è sempre meno tempo in generale per le persone di stare a casa, accendere il PC, aspettare che si carichi. È molto più comodo avere una tavoletta, no? Quelle tavolette tipo per fare surf, appresso, no? E utilizzare insomma i servizi esclusivamente Apple. Poi lui dice che in pratica il tablet, nel mercato dei tablet, l'iPad ha il 90% del marketing. Praticamente dice che l'iPad sarà il futuro in tutto, sia nel gaming, che si trasferirà completamente sull'iPad. Di tutto, insomma. Allora, se mi chiedete un commento a caldo, insomma, le battutine le ho fatte mentre davo la notizia. Io non so che dire, sinceramente non lo so. Se davvero l'umanità dovesse fra qualche anno utilizzare più iPad, o meglio tablet, che personal computer, io probabilmente farei l'eremita da qualche parte in attesa della morte di... Bravo, bravo. Non lo so, voi che dice... Mi sembra assolutamente una cosa pazzesca. Ma facendo una riflessione seria, sinceramente non vedo un futuro anche lontano in cui un iPad o un tablet possa sostituire completamente un computer. Forse, nel senso, questo potrà accadere. Potrà accadere che i tablet avranno un'evoluzione loro propria, e che i PC ovviamente continueranno a evolversi in modo loro. Cioè, non vedo perché il tablet debba sostituire il PC. Sinceramente non vedo perché. Cioè, la giustificazione è che il fatto di avere fretta, di non poter stare a casa, accendere il PC... Ma per me è una cazzata. Cioè, non ha proprio senso. Non so voi cosa ne dite. Anche perché i computer portatili li hanno fatti apposta. Hanno fatti netto PC per la maggior trasportabilità. Insomma, per me è una grandissima, proprio... A parte che il tablet iPad, quanto è trasportabile, mamma mia. È trasportabilissimo. Infatti... È comodissimo da poter trasportare. Ovviamente tutti noi abbiamo un iPad, vero? Sì. Ovviamente. No, l'ho giusto in bagno accanto alla carta igienica. No, sì. Comunque no. Mi sembrano... Io ho iPad 1, 2 e poi mi compro anche il 3. Mi sembrano delle notizie assurde. Cioè, questi, non lo so, io li trovo... Trovo che i piani alti della politica, diciamo, che se nei telegiornali ogni tanto sentiamo i politici sparare stronzate, quelli della Apple li superano di gran lunga. Cioè, stiamo veramente raggiungendo dei livelli di pietosità. Ma come si può pensare? Cioè, tu prendi adesso noi che in questo momento stiamo registrando questa trasmissione, no? Allora, io sono davanti al mio 15 pollici. Sono seduto, ho una tastiera, insomma, questo mi dà anche una certa sicurezza, la mia workstation. Come potrei pensare di gestire qui 600 finestre? Posso dire una cosa? Sono emozionato dal tuo discorso, ti giuro che mi sto mettendo a piangere. Sono emozionato. Cioè, come potrei sostituire io una situazione del genere con questo pezzo di carta con un display? Non lo so io come si fa? Non si può. Poi, non lo so, non ci sono i fili, non ci sono i cavi. Come posso io prendere in mano una VP e sperare di sparare in tempi ragionevoli con un coso che, se premo con un dito, mi preme 2 centimetri a destra? Steve Jobs avrà tutte le risposte, figliuolo, non preoccupare. Ciò è impossibile, assolutamente. Dai, al di là dell'orgoglio da gamer, questa qui è una simpatica notizia da economista Apple, insomma. Parlandoci chiaro, sì, è sicuramente sì. Guardiamo i dati, guardiamo i dati dei tablets, guardiamo quanta gente usa i tablets davvero, e guardiamo soprattutto quante possibilità hanno i tablets questa qui onestamente è la tipica osservazione, sono i tipici dati che poi non voglio sapere neanche da dove li tirano, di chi fa, beh, chiamiamolo computing medio, insomma da chi crede che lo user generico è il giornalista che va a fare le interviste e se le scrive sull'iPad. Ok, quello non è, non è l'utilizzatore che chiunque punterebbe a come user finale, insomma non è lui lo user finale, sì. Chi vende computer punta a tutti gli user, l'iPad punta a una cerchia abbastanza ristretta. Ma guarda, user... io a questo punto, scusami se ti interrompo, a questo punto credo che tipo noi quattro siamo tra gli stupidi, perché l'iPad 1, se, come sapete bene, insomma, ha venduto tantissimo. Adesso non mi ricordo bene le cifre, non vorrei dire una cavolata proprio colossale, però 8 milioni di copie di iPad venduti tipo nel primo mese, una cosa simile, è una cosa pazzesca, 8 milioni. Tra cui, cioè, la maggior parte venduti a scatola chiusa, ricordo io, cioè prima di sapere cosa realmente si stava acquistando, già da quando era partita l'idea dell'iPad, quindi ancora non si sapeva nulla, gente già era andata a prenotarlo. E questo secondo me è significativo, perché ciò significa che la gente, diciamo, l'acquistatore medio della Apple non è uno realmente interessato al loro prodotto, quanto al fatto che sia l'ultima uscita, nel senso che... Sì, concordo. Questo ha un senso, questo ha un senso. Per questo dico che secondo me noi siamo tipo dei... Poi che si mettono il giorno a scuola e tirano fuori l'iPad, voglio dire, io onestamente cacciare fuori tutti quei... Non so adesso quanto costa un iPad se io volessi andarmelo a comprare. Ma comunque è una cifra pazzesca. Da 500 ai gli 800. Cioè, onestamente, che cosa me ne devo fare io di quel coso? Voglio dire, posso fare le stesse cose più o meno con il mio cellulare. C'ho internet... Posso fare delle cose base, perché voglio dire, oltre ad andare su Twitter o leggermi una cosa su Facebook, che cosa devo fare io mentre sono sul pullman, voglio dire? Non è che posso fare delle grandi cose, non so, al di là del giornalista che si mette a scrivere gli appunti, ma non saprei, onestamente. Comunque direi che è meglio fermarci qui, perché abbiamo perso più o meno metà delle 3 miliardi di persone come ascoltatori di questo podcast, quindi direi basta criticare Apple, insomma, dai, sì, è una compagnia interessante. Comunque, ultima postilla, se mi permettete, nonostante noi siamo tutti e quattro contro di Apple, auguriamo a Steve Jobs una guarigione, insomma. Sì, indubbiamente. Indubbiamente una guarigione veloce, altri prodotti, perché Steve Jobs, da diciamo, senza Steve Jobs non rideremmo, insomma. Poi ci rimane Bill Gates, che facciamo con Bill Gates? Sì, ma infatti aspetta, fai ripetere. Bill Gates si prende in giro da solo, insomma. Capito, almeno Steve Jobs ancora ha una specie di dignità di qualcosa, insomma. Steve Jobs non si cambia mai, ha sempre quella maglietta. No, almeno ripeto, perché era cattiveria gratuita. No, dai, ripeti la tua ultima frecciatina, che era veramente... No, dicevo, stiamo aspettando altre merdate da Apple. No, davvero. Non rideremmo più, capito? Per favore, no, Dio, non cacciarci Steve Jobs. Beh, andiamo avanti. Rampage, vai. Allora, qua andiamo fuori totalmente dagli argomenti di informatica, software, hardware, Apple. Di fronte a una causa come questa... dall'omosessuale che acquista il Mac senza alcun filo al netgamer che sta in questo momento giocando la sua partita più importante di Counter Strike, io penso che dobbiamo unirci tutti a corte contro una causa molto più seria di qualunque che tipo di ideologia. Rampage, dici? Allora, mi stai facendo preoccupare. Questo è un argomento che mi sta estremamente a cuore. Io vorrei tanto non avere questa news da raccontarvi, purtroppo ce l'ho. Prego. Allora, come penso tutti gli ascoltatori di questo podcast e qualunque nerd che si rispetti sappia, esiste una fiction che si chiama The Big Bang Theory, che ha fatto un grandissimo successo negli ultimi tempi. Tratta, diciamo, delle fantasiose originali vicende di tre amici fisici e un ingegnere che vivono la loro vita da nerd, videogamer, scienziati del più alti livelli del mondo, senza alcun tipo di esperienza in campo sociale. Cosa c'entra la Bielorussia? con tutto questo. Cosa c'entra la Bielorussia? Quei bastardi dei bielorussi. Noi vogliamo bene ai nostri amici bielorussi. Rampage non sa quello che dice. Noi vogliamo bene ai nostri amici bielorussi. Per favore ascoltateci. Continuate. Quei comunisti di merda hanno osato plagiare e infangare il nome di Big Bang Theory, creando una fiction copiata e incollata con qualche errore abbastanza evidente per chi volesse. Metteremo i link per vedere le copertine e quant'altro di questa fiction, che si chiama I Teorici. I Teorici è la copia sputata di Big Bang Theory, con la differenza che gli attori, oltre a essere mal vestiti, parlano in russo. L'attrice è più brutta. Vorrei chiarire che l'attrice è veramente interessante, quindi date un'occhiata anche al plagio, davvero. L'attrice è più brutta di quella originale, nonostante fossero russi e forse avessero più possibilità degli americani in questo senso. E niente, ma bene, la cosa più bella, aspetta, la cosa peggiore è che questo programma non può essere denunciato per plagio, in quanto produzione è sotto la diretta tutela, non so adesso quali siano i termini adatti dal punto di vista legale, del governo bielorusso. Cioè, questo non è stato prodotto da una casa televisiva, ma dal governo stesso, e quindi è esonerato da qualunque tipo di denuncia per plagio. Ora io vi invito a prendere la bottiglia di DAF che avete tutti davanti al vostro schermo, bere le ultime gocce, andare in bagno, prendere dell'alcol etilico, svuotarlo all'interno della bottiglia, prendere il fazzoletto in cui c'erano i biscotti fino a poco tempo fa, inserirlo nel buco della bottiglia, prendere un accendino, mirare verso la Piazza Rossa, accendere la miccia e lanciare. Poveri, i russi non c'entrano niente. E lanciare contro quei bastardi. Va bene. La vostra rabbia. Ok, la discussione sta andando, mi sa, troppo. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, ragazzi, chi è rimasto? Scusatemi. Malloman, puoi andare tu? Sì, va bene, dai. Come prossima news ritorniamo sempre nel cerchiamo di essere campo veloci Apple. Questo però, perché se no non finiamo per... Torniamo nel territorio della Apple, e secondo appunto gli ultimi rumors pare che uscirà una nuova versione del caro iPhone. Dario, tu ne sei contento di questo? Sarei uno siamo che lo ordinerà. Non vedevo l'ora. Guarda, cominciate a chiamarmi in causa tutte le volte. Lo sappiamo ormai, lo sappiamo. Andiamo avanti. Lo stai già preordinando, immagino. Comunque, pare che per settembre o addirittura ottobre dovrebbe uscire l'iPhone 5. Secondo appunto questi nuovi rumors, le novità, diciamo, hardware e software ovviamente non si sanno, ma diciamo pare che si avrà forse una fotocamera da 8 megapixel oppure una da 12, addirittura una fotocamera da 12 megapixel e niente, anzi altri rumors pare che dicano che uscirà una nuova versione di iPad, attenzione, ad ottobre, iPad 3 forse ad ottobre, però pare che quest'ultima notizia sia stata smentita, in quanto dovrà uscire almeno nel 2012. Ma noi lo stiamo aspettando tutti, non vediamo l'ora. Infatti, speriamo. Non vediamo l'ora. Speriamo che abbia anche il russo tra le lingue predefinite. Va bene, ragazzi, abbiamo smerdato Apple già abbastanza. Io direi di arrivare all'ultima news presentata da Garriden, poi passiamo al primo pezzo. Sì, dai, violenza gratuita su Apple, basta. Infatti sì, andiamo su roba non Apple. Vi sposto un attimo la vostra attenzione su quelli che sono sistemi operativi Linux based, insomma. Vi dico, beh, è abbastanza interessante, se avete notato le news in rete, che è uscita la nuova versione di GNOME. GNOME, qualora non lo sapeste, è un'interfaccia grafica adottata da parecchi sistemi operativi Linux based come default. Ed è una delle tante scelte che logicamente vi offre un sistema operativo Linux. Ora io non posso che consigliarvi di dare un'occhiata a quello che è la nuova GNOME, che segue davvero un design molto molto pulito, davvero. Non si tratta di design minimale, ma veramente pulito, e probabilmente può essere uno spunto per un sistema operativo al futuro, perché è davvero essenziale, ecco. Non si tratta di molte chicche come potrebbe essere un KDE se siete dell'ambiente, o tantomeno Aero per Windows e altre cose simili, davvero. In questa news si vede tutto il pro che è Garrido. Non sia mai, io non sono né pro né di parte. Vi consiglio solamente di farci una prova, soprattutto perché potete farlo gratuitamente, non solo gratuitamente, anzi facilmente, dal sito della GNOME. Se andate sul sito della GNOME e fate try it out, provarlo insomma, avete a disposizione una immagine di un sistema live da provare senza installarlo, direttamente dal vostro CD, per vedere un pochino come funziona GNOME 3. Potete scegliere di utilizzare OpenSUSE o Fedora come distribuzione, e vi posso assicurare per esperienza personale che è davvero interessante dare un'occhiata insomma a come sono gestite le cose con GNOME 3. Lo consiglio sia agli utenti Linux sia a quelli outside, tanto il vostro sistema non viene minimamente toccato. Spero vi piace insomma. Io ci farò un giro appena posso. Non so, Malloman, Rampage, avete qualcosa da aggiungere? Io sinceramente sono, come ho detto prima, ignorante proprio in materia di... Siete dei nerd di seconda categoria. Sì, no, va bene, allora... Non siamo degli ingegneri, se è quello che intendi. Anche io penso... Andrò al più presto appunto a testare, a provare questa nuova versione di GNOME. Va bene. Quindi, ragazzi, questa prima parte è stata anche abbastanza lunga. Andiamo subito col primo pezzo, scelto dal nostro Rampage. Gli artisti sono, l'artista credo sia una band, Ivalane, il pezzo si chiama I'm Down, I'm Down. Ci sentiamo tra poco. I wish I were a perfect lover, but I fail to. Down. I'm down, consigliata dal nostro Rampage, che è profondamente innamorato di questa canzone, assolutamente, vero? Sì, sì, decisamente. Decisamente. Benissimo, allora andiamo avanti subito, perché ovviamente ci abbiamo messo un'ora solo per la prima parte. Nerd Talk, sigla. Nerd Talk. Che sigla power. Nerd Talk, benissimo. Nerd Talk è la, diciamo, il pezzo della rubrica che parla un po' di un argomento più sostanzioso, possiamo dire. E abbiamo scelto di parlare dei browser, o Battle of the Browsers, come dico io. Cioè, in che senso? Ci metteremo un po' a discutere della un po' della situazione dei browser disponibili in generale, migliori, peggiori, eccetera, che esistono sull'internet. Prima di iniziare, direi di iniziare con una domanda molto molto generale, cioè che browser utilizziamo noi prettamente. Per quanto riguarda me, io tutta la vita Mozilla Firefox, mi sono sposato con Firefox già da qualche anno e insomma continuerò così, perché insomma così Firefox rulla. Io Firefox 4 e uso Firefox praticamente da sempre. Sì, assolutamente. Rampage, Garriden? Io sono profondamente innamorato dei prodotti da Thunderbird a Firefox, anche se devo dire che il nostro è stato un rapporto un po' travagliato, in quanto ammetto di aver peccato di adulterio. Purtroppo a un certo punto mi sono sentito così trascinato all'onda di Google Chrome che non ho saputo resistere. Ma poi sono tornato strisciante verso il mio vero amore. Fa penitenza. Garriden. Beh, guarda, che dire, mi dispiace dire che siamo terribilmente di parte ancora una volta, però. Sì, infatti dispiace anche a me, dispiace tantissimo, intanto è così. Guarda, sono un dannatissimo utente Firefox, anche io davvero da tempi immemori, ma devo dire una cosa che forse, li ho provati davvero tutti, onestamente, o li ho provati o per sport su tanti sistemi operativi, tanto per vederli tutti, però la mia scelta rimane Firefox, e ora vediamo anche il perché, vediamo anche i vostri perché. Sì, oppure ne ho provati veramente. Perfetto, se mi consentite, direi di fare una carrellata dei 10 browser disponibili, perché sono, diciamo, 10 quelli disponibili. Sì, mi sembra una buona idea, insomma, dai una buona. Ok, una buona. Allora, parto dai ranking, cioè dalla prima alla decima posizione. Anzi, parto dalla decima alla sesta, poiché dalla decima alla sesta sono praticamente sconosciuti. Decima posizione, Space Time, che io non conosco. Nona posizione c'è Phase Out. Ottava posizione c'è DeepNet Explorer. Settima Avant Browser. E sesta Maxton. Io di questi 5 sinceramente non ne conoscevo nessuno. Li ho provati tutti e 5. Quello, diciamo, più innovativo, comunque quello più interessante, mi è sembrato Phase Out. Ha questa interfaccia pseudo futuristica che un po' mi ha intrippato, diciamo. Però non neanche troppo, perché un'interfaccia troppo complicata, secondo me, poi dà fastidio in generale. Cioè, un browser deve essere semplice. Ho trovato la stessa cosa. Deve essere proprio semplice, veloce. Non si può andare. Non si può assolutamente utilizzare questa tastiera futuristica, eccetera. Io almeno mi è venuto il mal di testa dopo 2 minuti. Oltre questo non conoscevo né Maxton, né Avant, né DeepNet, né Space Time. Non so se voi volete dire qualcosa velocemente di uno di questi. Io guardo, al di là del fatto che davvero Face Out credo sia il tipo di interfaccia da evitare, ma seriamente. Sì, infatti. Al di là di questo, so che Avant ha goduto di un certo successo e me lo ricordo ancora, però davvero tanto tempo fa, e in generale non l'ho mai apprezzato, perché lo trovo anche questo abbastanza disordinato, devo dire. Non ci posso fare niente, mi sembra davvero uno step in gioia. Sì, assolutamente, vecchio poi. Io ho provato per un certo periodo, devo dire, Maxton, in un periodo in cui, diciamo, il mio spirito fricchettone mi portava a fare queste nuove sperimentazioni, ma onestamente non ho trovato niente di particolarmente innovativo rispetto a, non lo so, parlo del più brutto, tipo un Internet Explorer, onestamente. Cioè, era quasi preferibile Internet Explorer. Il che è tutto dire. Risparmiamoci la merda per proprio. Sono felice di sapere che anche voi siete d'accordo con me. Insomma, tutto vero è che. Però ecco, non è un podcast interessante, siamo tutti da una stessa parte. Sì, questi cinque, vabbè, ma senti, noi siamo politically incorrect. Sì, infatti, andate tutti a fare. Sì, neanche a dire che ne sosteniamo qualcuno, a parte Garriden, che forse è più un fanboy della... È più un ingegnere. Esatto, comunque. No, nel senso che il problema, il punto è, perché stanno sotto alle classifiche? Perché non hanno niente, nel senso che un browser, secondo me, dovrebbe essere semplice, però al tempo stesso ricco di possibilità che vengono fuori soltanto se te le vai a cercare, però non che ti inondano appena tu scarichi questo programma. Infatti, e ti chiedono. Questo è un argomento davvero interessante che secondo me nelle prime posizioni comincia ad avere un senso. Allora, magari tira avanti. Sto seguendo comunque per dovere di informazione, sto seguendo la classifica stilata dal sito internet www.internetbrowserreview.top10reviews.com, che si occupa proprio del ranking di tutti i browser disponibili ogni anno. Questa è riferita ai primi mesi del 2011. Come ho detto, abbiamo le ultime 5 posizioni, dalla decima alla sesta. Dalla quinta alla prima abbiamo delle facce conosciute. Quinta posizione Safari, quarta posizione Opera, terza Internet Explorer, seconda Google Chrome e primo Firefox. Perché mi metto a ridere quando dico Internet Explorer? Lo saprete fra poco. Allora, iniziamo dalla quinta posizione, Safari. Safari, diciamo, il browser ufficiale, no? Possiamo dire del nostro... Sì. Della nostra casa preferita, come abbiamo già detto, vero? Sì, penso di aver visto il suo logo all'ultimo Gay Pride che hanno fatto, ma non vorrei sbagliarmi qua vicino, insomma. Ok. Ciao ascoltatore unico che sei rimasto. Come stai, ascoltatore unico che sei rimasto? Ciao, ti vogliamo tanto bene, ascoltatore unico che sei rimasto. Allora, su Safari che c'è da dire? Non lo so, io sinceramente non vedo niente di speciale, né niente di così tanto peccaminoso in Safari. Mi sembra niente infame, molto... niente gloria, diciamo. Sì, mi sembra molto... ecco, è normale, quindi... esattamente, è normale, sì. È normale, non... ecco, troppo normale, secondo me, perché non ha uno straccio di customizzazione. Sì, è vero, cioè, non sei felice di usare Safari per quell'opzione o per quella cosa, cioè... Sì, è molto sterile un pochino, non lo so. Sì, concordo. Poi se provi a scaricarlo e non sei con un Mac, ti senti anche un po' fuori luogo, nel senso che è un po' come usare iTunes quando colleghi l'iPod al PC e ti senti un po' fuori luogo perché, insomma, è troppo diverso, troppo legato alla sua terra madre, diciamo. Sì, infatti mi è sempre sembrato strano utilizzare... robe Apple su sistemi Windows. Mi è sembrato proprio, non lo so, una mi cosa sembrano proprio... delle forzature inutili. E trovo strano che per molti programmi la Microsoft non faccia niente per sostituire questi programmi, insomma. Sì, assolutamente. Garriden, cosa ci vuoi dire del tuo amatissimo Safari? Sto facendo per il bene del podcast. Comunque, al di là di questo, vi posso dire che avete ragione su Safari, sul senso che davvero non ha una feature davvero interessante. Al di là di questo vi dico che insieme a Safari per me si collocano più o meno come posizione e come interesse molti browser di ambiente Linux, insomma. Se avete provato, diciamo, quei browser del tipo Conqueror e simili, che sono per ambiente Linux, in particolare KDE, davvero sono simili a Safari a livello di feature. Si posizionano, cioè, niente. Niente di interessante, esatto, niente di... Non c'è un vero motivo per preferirlo a Firefox. Bene, passiamo alla quarta posizione. Allora, le posizioni, prima cosa di tutto, sono ranking rispetto non ai più utilizzati, ma a quelli valutati meglio. Quelli più utilizzati arrivano fra poco. Ho le statistiche anche per quello. Quarta posizione, come in generale miglior browser, abbiamo Opera. Ora, di Opera io sinceramente, allora, ho provato tutti questi browser, Opera non l'ho provato. Però l'ho provicchiato qualche anno fa, quando ancora ovviamente era una versione più vecchia. E sinceramente di Opera non so, anche questo lo vedo come un browser che non offre delle caratteristiche distintive, se non una che mi ha particolarmente colpito, come ho letto qualche giorno fa. C'ha l'interazione vocale. Opera ha l'interazione vocale. Io non lo sapevo. A me mi cogli impreparato, non lo sapevo. A me, se devo essere sincero, vocale, ragazzi, ha colpito la velocità. È molto veloce con le pagine, veramente molto veloce. Anche, diciamo, dalle ultime versioni è possibile anche attivare Opera Turbo, che tipo, avete presente quei giorni quando la connessione non va, è molto lenta, la fixi in un certo senso il problema, o almeno lo bilanci. Io infatti Opera l'ho sul netbook, mi ci trovo comunque bene. Sì, sì, sembra proprio su questo, sul fatto della velocità, devo dire è veramente molto veloce. Sì, assolutamente, sembra molto, in effetti sì, mi sembra strano, davvero non riesco a capire. Soprattutto questa cosa di Opera Turbo è, secondo me, una trovata abbastanza simpatica. Cioè, ovviamente se voi tipo dovete vedere delle foto non potete usare Opera Turbo, in quanto si risultano tutte sgranate. Ma se invece bisogna più fare tipo controllare le email o le cose, la connessione fa cagare, è un'ottima opzione. Mi permetto di esprimere un ultimo parere su Opera, magari. Certo. Io sono stato un utente Opera, devo dire, convinto per un certo periodo. Nel senso, utilizzavo Firefox, ma su altri ambienti preferivo Opera, tanto per cambiare, senza un vero motivo. Devo dire un paio di cose. Che a livello di scelte che Opera vi permette di fare nelle sue impostazioni, è veramente un sistema bilanciatissimo. Davvero vi fa scegliere. Anche questo, sì. Sì, è molto bilanciato. In effetti non capisco, cioè non riesco a capire perché, come possa essere sotto Internet Explorer. Esattamente. Ma secondo me perché comunque ha una fetta di mercato inesistente praticamente. Sì, è strana sta cosa. Sì, allora io ho una mia idea personale con Opera, che devo dire che rispetto a questa classifica è uno dei browser che io difendo, diciamo. E penso che allora io ho avuto questo tipo di esperienza, diciamo, con Opera, che praticamente per computer ho sempre preferito Firefox, perché lo trovavo più, non so, lo sentivo in un certo senso più familiare, nonostante Opera avesse comunque un'interfaccia grafica più interessante. Sì. Però Opera, e questo è il punto dove voglio arrivare, l'ho trovato sempre il migliore compromesso browser per tutto ciò che non è un PC. Prendi un cellulare. Secondo me Opera è la migliore soluzione in assoluto che tu puoi scegliere per il tuo cellulare, per il tuo non lo so, per tutti gli aggeggini minuscoli che la gente ormai tasca e con la quale si può fare qualunque cosa, sia per i protocolli di sicurezza che ha, che sono molto aggiornati, soprattutto diciamo nelle versioni mobile, se vogliamo, che per la scarsissima RAM che comunque riesce a prendere, che è sicuramente inferiore a quelli standard che vengono sì, infatti dati con queste periferiche. Finisci, Malloman? È appunto che occupa poco, cioè non utilizza molte risorse come RAM eccetera. E comunque, per il fatto di Internet Explorer, secondo me è perché, diciamo, è il browser preinstallato nei computer, quindi diciamo l'utente medio, magari che non ha conoscenze, magari non ha proprio lo stimolo ad andare a cercare un browser diverso, lui gli serve giusto magari internet per vedersi le sue cose, andare un po' su Facebook, leggere qualche email, e quindi non ha di queste esigenze, quindi avendo quello preinstallato usa quello, punto. Sì, sì, sì. Secondo me è per questo, ma se no meriterebbe di stare veramente in basso. Qualcun altro vuole aggiungere, Garriden? Sì, colgo l'occasione per farvi notare due piccole cose. Sì. Che Opera, almeno tanto tempo fa, era una certezza, anche adesso c'è qualcuno che gli fa concorrenza, ma è uno dei pochi browser che passa l'acid test, no? Il famosissimo test per rendere. Sì, ora, sì, davvero trovo questa una delle cose più inutili che vi possano capitare sul web. Poi è una scelta, insomma, a me non interessa che un browser passi o non passi l'acid test, ma al di là di questa è una cosa interessante, e soprattutto il fatto che Opera non è un progetto open source. Questo è un termine di paragone che con Firefox comincia, ecco, a perfetto, scusami, volevo dirlo anch'io questo. Non è un progetto open source. Anzi, gli unici due browser che andiamo a vedere dopo a essere open source sono Firefox e Chrome. Non c'è nessun altro browser che sia open source per a chi in effetti è rivolto, cioè gli utenti, praticamente. Sottolineiamo che Chrome non è neanche totalmente open source, quindi è basato su un progetto open source, ma non lo è direttamente. Quindi davvero, se volete parlare di browser open source, parlate di Firefox. E basta, praticamente, perché è l'unico. Se di questi di fascia alta, sì, davvero. Sì, sì. Ah, pensavo che anche Internet Explorer. Oh no, scusate. Allora, visto che hai summonato, hai fatto una summon, vero? Del meraviglioso Internet Explorer, che comunque, per quanto possiamo dirne, è in ranking numero 3. Non lo so, ragazzi, che volete dire? Io ci ho provato a disinstallarlo, ma giuro che è un è un'ambizione talmente utopistica. Guarda, è come cercare di disinstallare, che ne so, la bandierina che ti avverte degli aggiornamenti, tipo dice attenzione, devi impostare un backup su Windows. Non so come si disinstallano queste cose. Tra l'altro, se ricordate la famosa causa di Netscape, non so se ricordate, ma Bill Gates su questo fatto di poter disinstallare Explorer ci fu una causa lunghissima ai tempi di Netscape. Ricordo che alla fine finì in torto per Microsoft perché voleva bloccare, insomma, il mercato su Explorer. Ricordiamo Netscape anche. Indubbiamente. Che sì, sì. Ha perso indubbiamente un po' di passaggi, ma certo, è rimasto. Certo, ricordiamo il defunto Netscape. Comunque, al di là di questo, secondo me davvero la fetta di mercato su cui gioca Explorer. E c'è da quella parte Firefox, comunque Netscape. Sì, sì, sì, dico quando era Netscape. E ciò da cui è nato Firefox, è partito Firefox. Sì, sì, sì, sì. Dai, non c'è niente da dire su Explorer, siamo onesti, l'abbiamo visto tutti. Ma guarda, più che altro Smoker inesistente. Non c'è niente da dire in positivo, in negativo quante ne vuoi. Ma poi diciamo che non ha un download manager. Almeno io non me lo ricordo, mai visto un download manager. Non ha un'apertura open source. E soprattutto è lento. Adesso l'ultima versione usa una quantità di memoria che è improponibile. Sì, l'ultima versione di Explorer, che non vorrei sbagliare, mi pare sia la 9. Sì. O la 10. 10 uscita la 10. No, 10 o 9? No. 9. Aspetta, la 10. La 10. Ecco, questo fa capire quanto ce ne frega. Allora, l'ultima versione di Explorer, non lo so, io non l'ho provata perché sinceramente non ci tengo, però a dire la verità ho visto che comunque sta cercando di recuperare un po' i suoi problemi in generale Explorer. Fatto sta che io quelle poche volte che lo apro accidentalmente sembra un mammut, insomma, non si capisce. Io non riesco ad usarlo, sinceramente. Poi vedete voi. Per quanto mi riguarda, e ripeto, non sono colui che ha fatto queste classifiche, per quanto mi riguarda dovrebbe essere almeno sotto Opera come posizione. Siamo d'accordo. Io sento di dare un consiglio a tutti quanti gli spettatori. Fate una piccola prova interessante. Aprite Internet Explorer se volete veramente provare le sue potenzialità. Vi fate un bel giro in un sito porno e mi fate un bel report dei pop-up che vi sono usciti, dei spyware che avete preso. Insomma, mi fate un report di come è stata la vostra esperienza pornografica in navigazione e capirete più o meno i livelli sulla quale gioca Explorer, insomma. Garriden ha avuto grande esperienza di questi pop-up, ma da grande esperto indubbiamente. Pop-up, i grandissimi pop-up. Ma soprattutto di Internet Explorer, come non citare quelle graziosissime toolbar che sono almeno bellissime, 15 per ogni programma che installi sul tuo computer, diciamo, che ti appaiono, da quella per scrivere la domanda su Yahoo Answer e contemporaneamente, cioè fare la ricerca su Wikipedia. Ci sono delle cose assurde di toolbar di Internet Explorer. Tra l'altro che appesantiscono enormemente, proprio in maniera esponenziale ancora di più, il browser. Comunque una piccola precisazione, la versione 10 di Internet Explorer è ancora diciamo in anteprima, non è realmente uscita, c'è la 9. Beh, ecco, tra la 9 e la 10 vedremo poi un po' che differenza avremo. Speriamo anche di essere smentiti, perché insomma può darsi pure che stiamo... Vediamo l'ora. Vedremo. Comunque, un'ultimissima postilla su Internet Explorer. Tra le 5 prime posizioni, che ripetiamo, dalla quinta alla prima, sono Safari, Opera, Internet Explorer, Google Chrome e Firefox. È l'unico di questi 5 browser a non essere supportato su sistemi Macintosh. Mentre diciamo che il browser dei sistemi Macintosh, che abbiamo detto essere Safari, è supportato ovviamente su Windows. Non ho capito bene se... non lo so, sicuramente chiamasi orgoglio Microsoft. È orgoglio Microsoft, però voglio dire, già il vostro browser è quello che è, poi se non lo estendete a tutti non lo so. Ma figurati se uno della Apple va a scaricare una cosa per essere schifato anche dagli Apple. Eh sì. Va bene, dai, andiamo avanti. Andiamo su cose più interessanti. Su seconda posizione, Google Chrome. Dunque, su Google Chrome c'è molto da dire, e insomma in continua battaglia nel mondo dei geek e nerd con Mozilla Firefox. C'è chi dice che sia migliore il primo, chi il secondo. Ho ancora i lividi dall'ultimo nerd che ho incontrato. Allora, Google Chrome, allora quando uscì, diciamo pure che tra i browser è forse quello più giovane, vero? Se non sbaglio. Sì, indubbiamente. Sì. Quindi gli va dato merito comunque del fatto di essere arrivato comunque dove i browser già preesistenti non sono arrivati prima di lui. E diciamo, le funzioni un po' tra Mozilla e Chrome sono, diciamo, simili. Le vere e proprie differenze in generale tra Chrome e Mozilla, secondo me, sono rispetto all'apertura verso gli utenti, soprattutto verso gli utenti e verso una customizzazione praticamente personalissima del browser. Secondo me Firefox è un po' il browser di tutti quanti, cioè non troverà mai un Firefox uguale in ogni... Sì, è il più customizzabile. La quantità di add-on. Chrome sicuramente è la seconda scelta. Cioè, se io dovessi trovarmi in un futuro senza Firefox, probabilmente sceglierei Chrome, ecco. O Opera, sì. Non lo so. Opera. Oppure Opera, sì, Opera. Sì. Non lo so sinceramente. Però è così, Chrome, nonostante i primi problemi all'uscita, non so se vi ricordate, ha avuto quei problemi di password per le quali chi aveva Chrome, chi utilizzava Chrome, aveva le password salvate nel database di Google, una cosa simile. Adesso non so bene, come funzionasse. Vabbè, ma comunque è stata fixata, comunque bisogna dirlo, in breve tempo. Comunque è stato un disagio durato relativamente pochissimo. Sì, assolutamente. Di velocità credo anche sia nella media. È un ottimo browser, non c'è niente da dire. È quello che si avvicina di più al dio dei browser, che poi alla fine, come sappiamo, è Mozilla. Guarda, forse è meglio fare un paio di puntualizzazioni su queste cose, però. Sì. Ci sarebbe da dire che, anche se è una seconda posizione, su quei punti che hai elencato Chrome, io lo dico da utente Firefox, con una certa tristezza li vince tutti. È vero, sì. Però non solo Chrome, a livelli di navigazione normale, quindi navigazione normale intendo 5, 6, 7 schede, perché più di questo una persona normale e mentalmente sana non ne apre. A questi livelli Chrome ha utilizzo di memoria fra i migliori in assoluto. Vero. Poi so che se spingete il numero di schede a livello un po' più nerd, allora Firefox comincia ad apparire i conti, perché è un sistema di gestione della memoria un po' particolare. Soprattutto Firefox 4 ha puntato sulla memoria, tra l'altro, per vincere su Chrome. Però sai che leggevo ultimamente che comunque Firefox 4 ha recuperato tantissimo sulla velocità. È 6 volte più veloce della versione 3.6, 6 volte. Ma la versione 3.6 era veramente penosa rispetto a Chrome. Ma al di là di questo, al di là della velocità su Chrome, c'è anche la velocità di apertura delle pagine. Non solo il dispendio di memoria, l'apertura delle pagine. Chrome è veloce, secondo me, anche di pochissimo su tutto rispetto a Firefox. Mi dispiace dirlo, però adesso cosa mi viene da dire? Mi viene da dire, davvero siete interessati a quei 100 millisecondi in cui vi si apre la pagina? È una cosa un po' nerd leggere le statistiche e vedere i millisecondi impiegati ad aprire una pagina. Forse in un browser si punta ad altro, è lì che vince Firefox indubbiamente. Cioè, la customizzazione ha un senso, i millisecondi un po' di meno. Già sulla memoria è un'altra storia, ma Firefox 4 ha dimostrato che la gestione della memoria, insomma, è cambiata, radicalmente è cambiata, davvero. Sì, infatti, Chrome dà sempre quel senso di, non lo so, non essere proprio appartenente completamente a te. Come ma lo sai che user. È vero, sì. Io ho trovato che il disagio, tra virgolette, comunque principale di quando utilizzavo Chrome era il Download Manager, che è un po' particolare comunque, nel senso che adesso non so se è cambiato rispetto a quando io l'ho usato per l'ultima volta, ma c'era quella simpatica schermata a fondo pagina, no? Dei download. Sì, ti si apriva una nuova scheda. Ecco, la gestione dei download in quello spazio io l'ho sempre trovata piuttosto fastidiosa, nel senso che io preferisco il pop-up sullo stile di Firefox, che ti fa uscire la finestrella con tutti i download, fra l'altro anche per una questione di salvataggio di download vecchi, che con Google Chrome almeno a me dava un po' di problemi, nel senso che sapere che cosa avevo scaricato 4 giorni prima era un po' complicato, mentre con Firefox, a meno che svuoti la finestra, rimane lì. Almeno io ho trovato questo. E poi, secondo me, la velocità di download, non so perché, l'ho sempre trovata un po' limitata in Chrome rispetto a Firefox. Ora, questa forse è una mia impressione sbagliata, però io, diciamo, ho sentito questo problema quando ho usato Chrome, e l'ho usato davvero tanto. Sì, io non mi sento davvero di lodare Firefox a livello di Download Manager. Credo abbia il Download Manager più brutto e non la vanno a migliorare di tutti. È qui vabbè, che dai, dico, esteticamente sì. Dici? No, a livello di funzioni è davvero ridicolo che non abbia alcune funzioni. Quello di Opera a me piace. No, onestamente parlando è davvero pessimo il Download Manager. Sì, è molto semplice. Che non ha una funzione di resume vera. Per questo vince grazie agli add-on, grazie, esatto, a chi se ne accorge, perché un down demol te le risolve tutte queste cose. Tra l'altro, add-on per metà italiano, davvero da provare, fa capire che down demol sicuramente qualcuno programma davvero, sì, down demol porta dei livelli, il download dei livelli veramente spettacolari, offre Yash, offre davvero, è un piacere scaricare con lui, sentite il rumorino di finale del download e sarete soddisfatti seriamente. Io grazie a lui ho toccato i miei 1.5 mega di al secondo. Grandioso. È stato bellissimo vedere quella schermata. Va bene, prima posizione come ranking che abbiamo il nostro Mozilla Firefox. L'abbiamo detto, il più utilizzato da noi quattro e in generale anche il più utilizzato come browser, anche più di Internet Explorer, che è quello, come sappiamo, che è integrato in ogni sistema Windows. Ma di Firefox alla fine abbiamo già detto molto. Magari cosa vi sentite da aggiungere? Io direi che sì, come diceva Garriden, ha qualcosa, qualche laguna qua e là, secondo me, che è un pochino brutta da vedere, sinceramente, anche da utilizzare. Però grazie all'apertura completa proprio di Firefox, poi alla fine questo passa tutto in secondo piano, perché sì, ma infatti è possibile, diciamo, in un certo senso fissare queste lacune attraverso gli add-ons, quindi il problema scompare, ecco. Sì, assolutamente, scompare, cioè come detto prima, Chrome, quando usi Chrome un po' ti senti non appartenente forse a quel browser. Quando entri in Firefox è come, almeno per me, è come sentirsi un po' a casa, nel senso, sei su Firefox, sei in buone mani, diciamo. Ma veramente. Non su un Firefox non di tutti, però sul tuo Firefox, perché ognuno, sì, come sì, aveva già detto prima, mi pare... Io. Sì. Appunto, cioè, ognuno c'ha il suo Firefox strano, non lo so, io c'ho un occhio in alto a destra sullo stile della Nvidia, cioè, ci sono delle piccole cose, no, che rendono la tua home page un po' come la tua casa. Poi ci metti anche la iGoogle, dove ci metti la temperatura che sta nel mondo fuori, ma che tanto non ti interessa perché tanto di casa non esci, sei il tuo Firefox, ci metti un po' di cose, no? Tipo che giorno è oggi, ma non ti interessa che giorno è oggi, e poi, poi sei a casa tua, insomma. E poi non abbiamo, secondo me, trattato un punto rispetto ai browser importante, cioè la sicurezza dei browser. Quanto sono sicuri questi browser? Io, allora, nel ranking che ho davanti sempre, la sicurezza massima la raggiungono solo Firefox, Chrome e Opera. Proprio sicurezza massima. E forse Opera è anche superiore agli altri due. Per sicurezza. Io sapevo proprio di un pelo in più Chrome rispetto a Firefox. Ovviamente, cioè Chrome primo, ma proprio con un pelino in più. Non so, almeno per esperienza. Poi io onestamente non curo virus. Cioè, quando sento che una persona si lamenta per un virus, penso che sia una persona che con i computer non ci ha molto a che fare. Nel senso che, non lo so, almeno io non sento questi disagi, insomma, non so. Il poi... fanboy Apple ti potrebbe rispondere che su Macintosh virus non ce ne sono, per esempio. Ma neanche, forse... Per quanto ci possano essere, a me non danno alcun fastidio, nel senso che io sono talmente protetto nel mio computer, non sì, so. Sì, infatti. Prendi un... Parliamo comunque di buche di sicurezza più che di virus, insomma. Sì, no, dico sicurezza in generale. Sicurezza comunque in generale, davvero, all'utente medio sbatte veramente poco di queste falle di sicurezza a questi livelli. Poi... E invece, secondo me, è importantissimo. Cioè, abbiamo visto con Chrome che è successo all'inizio, quando ovviamente abbiamo detto che è stato fissato tutto e adesso funziona tutto benissimo. Però un leak di informazioni personali... insomma, in un mondo in cui sanno praticamente tutto di te. In un mondo in cui sanno. Il tuo è un discorso sensato, però davvero cade in un discorso davvero complicato. A maggior ragione io vi direi: promuovete Firefox e non Chrome. Promuovete Firefox e non Chrome, perché almeno dentro Firefox sappiamo che cosa c'è scritto. Ecco, è un po' ridicolo. Chrome magari è quasi open source, sì, era il progetto Chromium e tutta quanta quella storia lì. Però. Insomma. Ora, giusto per insultare un altro po' Internet Explorer, sì. Cioè, giusto per farvi capire. Vai, spaliamo la quantità di spyware, di informazioni che vengono filtrate. Praticamente l'utente, tra l'altro, non ne ha idee. Non se ne ha idea, perché non si può sapere. Questa è la cosa impressionante. Tipo, ricordo, no, adesso non ho un'esperienza con Internet Explorer, ma con proprio con il computer. Praticamente avevo montato una nuova scheda video e aggiunto, non mi ricordo, una piccola quantità di RAM. Alla riaccensione del computer mi esce scritto che, insomma, la macchina era stata la configurazione hardware era stata modificata, e quindi di reinserire il product key del sistema operativo. Cioè, cose veramente pazzesche. Cose veramente da uscire pazze. Assolutamente. Allora, io volevo continuare un attimo la discussione presentando i dati, le statistiche, anzi, rispetto all'utilizzo globale dei browser, partendo, cioè utilizzando ovviamente solo questi 5, i primi 5. Per quanto vedo, il sito di riferimento è www.westschools.com/browsers. Soprattutto le statistiche dei browser utilizzati nel primo, diciamo nei primi tre mesi in realtà del 2011. Le statistiche alla fine però sono simili. A ultima posizione abbiamo come meno utilizzato dei 5 Opera al 2,5%. Poi abbiamo Safari al 4%, abbiamo Chrome al 25%, abbiamo Internet Explorer che è al 25,8%, e poi il più utilizzato in assoluto è Firefox, ma di molte distanze, molte lunghezze, al 42,2%. Quindi se andiamo a vedere alla fine, il ranking di, diciamo, di valore non corrisponde quasi, non del tutto, però ci sono delle differenze rispetto ai browser più utilizzati. Cioè abbiamo Opera al quarto posto nel ranking di browser migliori e poi l'abbiamo al quinto come proprio ultimo utilizzato nel ranking di browser effettivamente utilizzati. Non lo so, come la vedete questa seconda posizione di Internet Explorer voi? Io, ma te l'ho detto, secondo me da cosa è dato questo fatto? Non certamente per merito, assolutamente no. Beh sì, sicuramente, ma ecco, da qua vediamo proprio cosa vuol dire integrare a forza qualcosa dentro un prodotto così tanto utilizzato come Windows. Perché, cioè, se Google Chrome, che non è... cioè è scaricabile, non è integrato, non almeno quanto Internet Explorer, è al 25% e raggiunge, cioè è alle calcagna proprio di Internet Explorer, che sappiamo benissimo essere il browser forse più integrato del mondo, è al 25,8%, cioè Chrome ed Explorer alla fine si combattono il secondo posto di browser più utilizzati. Certo, fa è molto bello vedere, almeno personalmente, Firefox come il più utilizzato in assoluto in generale, quasi con un 43% di preferenze. È brutto vedere per esempio Opera al 2,5%. Sappiamo pure che Safari, un altro browser, come abbiamo detto, tra virgolette ufficiale di Macintosh, è però al 4%. Significa che chi utilizza Macintosh o sono in pochi quelli che utilizzano Macintosh, e non credo, oppure sono in pochi quelli che utilizzando Macintosh non preferiscono Safari e preferiscono sicuramente o Firefox o Chrome, perché come abbiamo detto Explorer non è integrato in Macintosh. Sono statistiche interessanti. È bello vedere che cioè forse il dato più interessante è vedere questa ripresa, questa scalata progressiva di Google Chrome, che sta per diventare, diciamo, il secondo più utilizzato. È davvero una carica esponenziale quella di Google Chrome, perché a gennaio del 2010 era il più utilizzato da una percentuale di 10,8%. A gennaio invece del 2011 è del 23,8%, cioè un 13% in più proprio in un anno. La crescita è davvero esponenziale. C'è qualcosa a dire in più da parte vostra rispetto alle statistiche? Sì, vi lascio una piccola nota. Cioè, io non mi affiderei mai comunque a delle statistiche. Se fate un veloce giro, anche, non so, volete dare un'occhiata a Wikipedia, che forse è la cosa un pochino meno pagabile online, ognuno ha le proprie statistiche. C'è chi dice che Firefox è il più usato, chi dice di no. Ad esempio, secondo Wiki è Internet Explorer. Però vi dico una cosa, magari più che considerare che cosa succede in questo momento, meglio dare un'occhiata a cosa è successo entro quest'anno, entro due anni. Cioè, indubbiamente, non so, forse veramente Explorer è ancora il più usato, indubbiamente sì, non si può dire perché non c'è un criterio secondo la quale dico qual è il sito di riferimento per vedere le visite, non si sa. Al di là di questo posso dire che è crollato del 20% in media Internet Explorer, cioè ha avuto un crollo, e Firefox ha avuto una corrispondente crescita, tolto una piccola percentuale di utenti persi per Chrome. In generale si vede che come colosso Internet Explorer sta crollando, però devo dire, questo dimostra che si sta smuovendo qualcosa nel mercato dei browser, più o meno come si è smossa in quello dei sistemi operativi. Insomma, Microsoft è un colosso ma non lo è quanto lo era indubbiamente nel 2002-2003, in quel periodo. Ha un senso questo. Comunque, aspettiamo di vederlo in quest'anno, nel prossimo avvenire, vedremo sicuramente il mondo dei browser cambiare, sì, lo stiamo vedendo. Sì, infatti, vedremo. Bene, comunque, raga, io volevo dire ai nostri cari ascoltatori che ci farebbe piacere anche leggere le loro opinioni, magari lasciandoci un commento sul nostro blog. Ripetiamo la mail. Oppure mandandoci un'email, insomma, come volete, potete comunicare anche le vostre opinioni. Meglio non parlare a plurale, perché dopo l'uscita di Luca abbiamo più o meno un ascoltatore, forse sì, un mezzo ascoltatore, e non è bielorusso. Questo è sicuro. Ok, raga, momento rock and roll. Ci state? Vada, momento rock and roll. Che cosa sarà mai? Lo diciamo dopo la sigla. Let's plug it in. It's gonna say, hey, I see you plugged in a new device, and it's gonna load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner built. Whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely, absolutely. Bene, questa era la presentazione di era l'audio della presentazione di Windows 98 alla conferenza quando crashò davanti a tutti. Ovviamente c'era Bill Gates imbarazzatissimo che cercava di riparare ad un momento che appunto noi definiamo rock and roll, cioè qualcosa per riprenderci un po', no, dalla discussione, questa discussione seriosa sui browser. E quindi iniziamo, abbiamo delle cose interessanti da farvi, da proporvi, da dirvi, che provengono un po' da tutte le parti del web. Cercheremo di essere anche abbastanza veloci. Chi vuole iniziare? Inizio io, chi vuole iniziare, raga? Sì, no, sì, se... inizia tu, Murdoch. Inizio io. Ok, Fallout Tour. Ho scoperto qualche tempo fa questo sito di quest'uomo, credo, spero per loro che siano di più, che essendo così tanto fan di Fallout, gira per il mondo a cercare delle location che siano simili alla come dire, alle location invece proposte in Fallout. In pratica lui va a vedere le location reali che siano simili alle location finte all'interno di Fallout New Vegas. Ed è pazzesco, perché ne trova proprio di uguali, identiche. Sono fantastiche, ne ho viste un po'. Cioè c'è il luogo dove si svolge la battaglia finale di Hoverdam, che è lo stesso. Sì. È spaventoso vederlo nel... Io l'ho già immaginato dopo che la Cina butterà la prossima bomba atomica sugli Stati Uniti. Insomma, quello sarà il posto dove io andrò a piantare la mia tenda. Sì, insomma. Cosa c'è da ridere, voi direte? C'è da ridere che quest'uomo probabilmente non ha altra vita, non ha altro scopo nella vita se non girare il mondo a cercare ciò che è all'interno del gioco. E non so perché, sinceramente, non lo paga nessuno neanche. No, forse qualcuno lo paga, sinceramente spero per lui, però è molto interessante in realtà l'iniziativa. È sicuramente una delle cose più nerd che qualcuno potesse mai fare, sicuramente. C'è Hoverdam, che appunto, come diceva Rampage, è identica proprio. E l'indirizzo è www.falloutnewvegastour.com. Dateci un'occhiata, perché davvero... È pazzesco vedere come qualcuno si possa dedicare così tanto alla stesura di un sito del genere, perché è da malati, secondo me, assolutamente. Vabbè, questo era il mio rock and roll. Chi vuole andare col proprio? Non so, Malloman. Ok, dai, vado io. Io presento praticamente il famosissimo whip di Leroy Jenkins. Il whip, vabbè, per chi non lo sapesse, è la morte di tutto il gruppo che, diciamo, in un dungeon cerca di uccidere i vari boss per prenderne poi premi. Praticamente lui, mentre il raid leader stava dando le direttive per svolgere al meglio l'incontro, era momentaneamente FK. E dopo 2 ore di preparazione, di spiegazioni varie, questi ritorna e, nonostante le spiegazioni non fossero ancora finite, parte alla carica dei nemici, causando la disfatta di tutto il gruppo. Ora, chi non ha giocato a World of Warcraft mai, non potrà mai immaginare proprio la gravità della situazione. Sì, a voglia. Ma infatti, quindi, molto simpatiche sono le imprecazioni dei compagni verso Leroy, come ad esempio "God damn Leroy", e soprattutto il suo battle shout, un momento molto nerd, insomma, il suo grido di battaglia, che è diventato famosissimo in tutto il mondo di Warcraft, che appunto potete ascoltare. Solo. Ah, non solo, effettivamente. Sì, sì, ci sono tipo i lolcats. Ci sono molti lolcats che sono praticamente quelle immagini dei gattini, no? Con le... Sì, sì, ho capito, sì. Ci sono forse la più famosa è quella del gattino che alza le zampe. E sotto c'è scritto Leroy. Sì, sì, poi sono stati fatti vari doppiaggi nei film con questo urlo, che potete comunque ascoltare al minuto, al 1.22. Che trovate appunto nel post. Sì, sì, trovate appunto nel post del blog. E niente, fine. Questo Rock and Roll da andare a vedere più che sentire, secondo me. Sì, sì. Bene, Garriden. Bene, per il momento Rock and Roll io porto una cosa da leggere, né da vedere né da sentire, quindi vi consiglio di darci un'occhiata mentre la spulcio per voi. È su www.makingwoodsoftware.com ed è quella che sarà chiamata la Programmer's Top 10 Sentences, insomma le 10 frasi più adatte o forse più dette dai programmatori. Ora, se avete un minimo, diciamo, più celebri, sì, se avete un minimo di cultura da programmatori, se siete dei programmatori, in quel caso mi dispiace per voi, sicuramente avrete pronunciato. Non perdiamo ascoltatori. Io sono mi occupo anche di questo, insomma. Non perdiamo ascoltatori. Quindi allora, partiamo dalla prima, indubbiamente le commento in italiano. La prima è il celebre, non so, chiamatelo come volete, ma che cazzo, insomma. C'è un breve teorema secondo la quale il numero di "ma che cazzo" che dite durante la programmazione indica quanto buono o cattivo è il vostro codice, il what the fuck, esatto. Insomma, una bassa percentuale di what the fuck vuol dire che siete sulla buona strada. Se cominciate a dire troppi what the fuck, io comincerei a alzare la vostra pagina e dare un'occhiata al codice che avete scritto finora. Oppure quella del bug. Sì, sì, no, infatti ci arrivo velocemente. La seconda è funziona sulla mia macchina. Sì, perché a parte che non tutti sono a conoscenza del platform dependent o meno, in generale siamo tutti convinti che a casa nostra funziona, e quando portiamo un qualcosa da un altro immediatamente non funziona e ci rimaniamo di sasso. La terza è "do", si commenta da sola, la tipica esclamazione omeriana che farete anche voi quando scrivete i vostri codicelli che vanno in loop e non risolvono assolutamente niente. Che la bello quarta... non essere programmatori. Sì, no, concordo, lo ammetto. La quarta è sarà pronto domani, che devo dire non è solo da programmatore ma è davvero nerd questa frase, domani, ma alla fine non lo faremo. Procrastination. Sì, procrastination a palla proprio. Sì, sì. La quinta è davvero una delle mie preferite in assoluto ed è "hai provato a chiuderlo e riaccenderlo?" Davvero, non esiste un metodo migliore per risolvere un problema. Chiudete e accendete, non lo so se si tratta del vostro microonde, del router, chiudete e accendete e funzionerà nel 90% dei casi più o meno. La sesta è "perché?", perché è meglio chiedervi sempre perché, davvero, ha un senso chiedersi perché. La 7 è la preferita di Murtag ed è "non è un bug, è una feature". Quello è bello. Portiamo che qualcosa fa cagare immediatamente, è una feature. Sì, sì, è fatto così. L'ottava è un po' più ingegneristica ed è "quel codice fa cagare", perché qualunque codice non scritto da me fa cagare. Questo è praticamente vero e proprio orgoglio ingegneristico, lo ammetto. La 9 è un'altra degna ed è insomma, il mio codice sta compilando, quindi posso fare quello che cazzo voglio. E guarda caso lavoriamo tutti quanti con computer che compilano codice a livello lumaca, praticamente. Siamo veramente terribili. Programmatori trovano scuse di tutti i generi. La decima è un'altra in cui mi rivedo molto, e credo chiunque, ma davvero nel mondo dei nerd, possa rivedersi, ed è no, non so come riparare il tuo microonde. Sì, perché non so quante volte sarete andati a casa dei vostri amici e loro vi hanno chiesto: ehi, ma tu che sei bravo col computer, non è che mi puoi aiutare a aggiustare questo? E tu, che non avevi la più pallida idea di come fare, hai provato ad aprirla, magari ci hai anche provato, per poi fare o una figura di merda o ci sei riuscito. Io mi ricordo che Luca ci ha provato. Luca, sì, vero Luca? Sì, sì. Ricordo un paio di suoi tentativi di aprire un computer finiti davvero molto male. Bene, Rampage, prego. Beh, il mio momento rock and roll è dedicato a una come dire, a uno dei tanti modi per passare il tempo, non lo so, mentre per esempio aspetti che il tuo clan si raccolga prima di una clan war, ed è esattamente mettersi a cazzeggiare con Google Translate e scoprire che, oltre alla possibilità arrivata abbastanza recentemente di ascoltare la parola che avete appena scritto, c'è anche quella di sentirla cantata, però forse è una parola un po' grossa, in quanto se mettiamo, diciamo, se settiamo Google Translate per tradurre dal tedesco al tedesco, ci sono alcune combinazioni di consonanti che, se riprodotte con la funzione audio di Google Translate, ci hanno come risultato una beatbox, che e tutti se, sappiamo se, che cos'è. Ecco, esatto. Se state zitti, la faccio anche ascoltare. Ok. Beatbox. Un attimo, devo chiudere qua. Beatbox. Che si è sentita anche abbastanza bassa, ma spero si sia sentita abbastanza. Questa era la beatbox, questo era l'ultimo rock and roll. Andiamo col secondo pezzo, siete d'accordo? Vai. Andiamo? Sì. Bene, questo è il mio pezzo invece. Rispettiamo la tradizione di Nerdcast, ovvero filo giapponese, che non è completamente scomparsa come vedremo fra poco. Abbiamo un pezzo giapponese, Pod Safe ovviamente, loro sono i Green Blossoms, la canzone si chiama Hana Akari e ci vediamo fra pochissimo. Amen. Perfetto, erano Green Blossoms con Hana Akari. Continuiamo velocemente, andiamo avanti con ciò che stiamo giocando. Allora, per l'onore del vero c'era, doveva esserci una sigla per questa rubrica, ma non abbiamo fatto in tempo a prepararne una non decente, però insomma presentabile. Perfetto, raga, chi vuole iniziare parlando di ciò che sta giocando? Garriden, magari tu? Sapevo che mi avresti chiamato in causa. Va bene, allora. Vabbè, dai, puoi iniziare Rampage, se no. Ora io inizio. Non preoccuparti. Parto io e poi vi accodate, insomma. Sì. Parto con un gioco davvero recente che mi è capitato fra le mani praticamente il giorno della sua uscita in Italia. Vi parlo di Dragon Age 2. Qualcuno di voi sicuramente, no, oddio, qualcuno di voi vi avrà offeso adesso. Quasi tutti saprete Dragon Age 1, l'avrete giocato, insomma, è stato uno dei giochi più votati per PC e perlomeno degli ultimi tempi. Che cosa vi posso dire? Che Dragon Age 2 come seguito è stato abbastanza criticato, o meglio, non è stato veramente elogiato quanto è stato il primo episodio Origins. I perché non sta a me dirli, però in generale a mio parere Dragon Age era un gioco veramente troppo ok per avere un sequel normale, eh? Era davvero superlativo. Dunque Dragon Age 2? Personalmente io ho apprezzato Dragon Age 2, davvero sì. L'ho apprezzato e sto notando che ha dei miglioramenti a livello di interfaccia, di gioco. Ci sono tanti piccoli accorgimenti interessanti e vale la pena giocarlo se siete degli appassionati della serie, insomma, e anche non. L'hanno veramente criticato troppo, per mi pare. Per me era un gioco, Dragon Age 2 è davvero un gioco da 9, non da 8.5 come l'hanno valutato molti, 8. È davvero un gioco superlativo, provatelo, e soprattutto è più dinamico del primo. L'unica cosa che davvero non è all'altezza del primo era la storyline superlativa. Dragon Age Origins aveva dei personaggi davvero grandiosi, sì, sì. Dragon Age 2 ha una buona controparte, sebbene non eccezionale. L'unico consiglio che posso darvi è provatelo, perché è un gioco davvero degno, è proprio uno di quei giochi che dovreste avere sulla vostra mensola come must, seriamente. Oltre Dragon Age, hai giocato a qualcos'altro? Al momento mi fermo qui anche perché il vostro tempo è... Malloman, cosa hai giocato? Io attualmente sto giocando ad Assassin's Creed Brotherhood. Per PC? Sì, per PC. Allora, vabbè, che dire, riprende esattamente dove si lasciava con Assassin's Creed 2. Niente, io sono un gran fan di Assassin's Creed, mi piace veramente molto come tipologia di gioco, e devo dire che ci sono delle migliorie veramente molto apprezzabili, a partire sia dal combattimento, quanto diciamo in Assassin's Creed 2 era veramente difficile morire, in quanto comunque si aveva una vita che era enorme, poi le guardie attaccavano una alla volta, insomma non era molto, uno doveva essere proprio scarso sì, per sì. morire sì. Invece adesso, diciamo, oltre al fatto che le guardie sono più, diciamo, intelligenti, attaccano anche alle spalle, ti trattengono eccetera eccetera, anche contrattaccano per bene, schivano i colpi, insomma, quindi voglio dire, l'abilità del giocatore è necessaria, diciamo, l'abilità, ecco, scusa se ti interrompo, diciamo che come hai detto tu, il problema principale di Assassin's Creed 2 era che proprio non si moriva mai. Sì, è vero, non si moriva mai, e adesso la cosa è nettamente migliorata, ma prima proprio non si poteva morire assolutamente, cioè neanche il più newbo dei newbi poteva morire. Sì, anche perché tu stavi con la guardia alzata e non ti ammazzano più. Sì. Invece adesso magari ti bloccano, ti prendono da dietro, e quindi è già la cosa è più difficile da fare. Anche, diciamo, nelle modalità d'attacco è più bello, perché, diciamo, ci sono le combo sia per fare le uccisioni in serie, per ammazzare più persone contemporaneamente, magari lanci tre pugnali alla volta mentre con la spada prendi uno alle tue spalle, eccetera eccetera, insomma, diciamo, questi miglioramenti sono, io personalmente li ho apprezzati veramente tanto. Sì, anch'io. Molto, poi molto anche nelle armi, in quanto è possibile maneggiare maneggiare e portare appresso le armi pesanti, tipo le asce, le lance, le spade a due mani, cose che a me piace tanto. Infatti, come arma base, diciamo che uso lo spadone a due mani, che per me è un'arma grandiosa. Va bene. Sì, vabbè, poi ovviamente ci sono varie novità, varie cose. Un altro aspetto interessante secondo me è anche il fatto che si ha la possibilità di giocare in multiplayer online con varie modalità. Comunque secondo me ci sono varie modalità molto divertenti, nonostante comunque la critica dica che cioè, insomma, il gioco è sempre lo stesso, devi fare sempre la stessa cosa. Ma secondo me è un po', diciamo, come un FPS, no? Alla fine dell'FPS la mappa è sempre quella, le cose da fare sono quelle. Vabbè, opinioni. Secondo me invece l'online merita, secondo me. C'è altro a cui hai giocato oltre a Assassin's Creed? Sì, stavo anche giocando a Bioshock 2. L'hai ripreso? Sì, sì. Più che altro l'avevo iniziato, non so, l'anno scorso. Poi però non l'avevo più continuato. Adesso, insomma, ogni tanto faccio qualche partita giusto per proseguire la storia. E questo. Sì. Va bene. Possiamo passare a Rampage? Sì, allora io ho passato, diciamo, il mio tempo, premettendo che io sono uno che è estremamente legato comunque a giochi che abbiano una trama piuttosto consistente, nel senso che io mi innamoro delle storyline quando queste sono fatte bene, a prescindere da qualunque altro tipo di aspetto il gioco possa avere. Sono stato piacevolmente colpito da un gioco che inizialmente mi era stato descritto essenzialmente come un third person shooting neanche troppo interessante, che è Mass Effect 2. Non ho giocato il primo, quindi premetto di non poter fare un confronto, diciamo, se effettivamente ci sono state migliorie o peggioramenti, però devo dire che è un gioco che mi ha colpito moltissimo. Innanzitutto per le caratteristiche, la psicologia dei personaggi, che per ognuno dei personaggi è estremamente definita e ti lascia, diciamo, dei ricordi di ognuno, anche se ci giochi molto poco. Diciamo che tutto verte sul fatto che siamo dei veterani, dei vecchi eroi di guerra, che sono stati un vecchio eroe di guerra che è stato riportato in vita e che deve mettere su una specie di squadra super specializzata per salvare l'umanità da una grossa minaccia. Quindi è molto brutto il fatto che tu non abbia giocato al primo, nonostante tu abbia giocato al primo. Lo so, molto brutto, infatti molto... stavo pensando di giocarci. Comunque devo dire che, nonostante io non abbia giocato il primo, ciò non mi ha fatto sentire lontano dalla storia. Comunque, quindi devo dire che se effettivamente l'uno ha una storia ben definita, comunque sono abbastanza autonome, secondo me. Sì. In quanto la tua recensione è davvero interessante, perché è davvero una marea la gente che dice: posso giocare a Mass Effect 2 senza aver giocato l'uno, perché l'uno pesa veramente gente. È vero. È questo. E poi io l'unica cosa, allora, ho trovato molto interessante la possibilità di giocare come eroe o come rinnegato, ma l'unica cosa che mi ha lasciato un po' con, non so, l'amaro in bocca è stato il fatto che queste scelte alla fine non influenzino più di tanto la fine della storyline. Perché non ci sono dei veri finali alternativi, la fine è sempre quella. Più che altro cambierà il rapporto che noi abbiamo avuto, le nostre relazioni, diciamo, con la nostra squadra. Oltre quello non si va. Sì, diciamo. Infatti è in mezzo al gioco che servono. Il gioco nel mezzo, poi alla fine serve. Alla fine, ecco, e questa è una cosa che mi è dispiaciuta molto, anche perché trovo che questa recente moda di dare dei finali, più finali alternativi ai giochi, sia molto interessante. Sì, ecco. Sì. Per il resto, come vedi Fallout. Quindi, fra l'altro, ci sono dei rumors sul Mass Effect 3 che annunciano che invece sarà un gioco più che abbia anche questa possibilità, diciamo, in più del secondo, quindi io lo aspetto anche con una certa, con un certo interesse. Per il resto il gameplay mi ha piacevolmente, diciamo, mi ha lasciato abbastanza soddisfatto, nonostante vedendo il trailer fossi inizialmente piuttosto scettico, in quanto sono molto legato agli spara tutto in prima persona, e l'idea di giocare con una telecamera forzatamente in terza persona all'inizialmente mi lasciava un po' scettico, però devo dire che la giocabilità è stranamente semplice. E in base a effettivamente scegliere i livelli di difficoltà prima di cominciare le missioni cambia radicalmente la necessità di skill, diciamo, da parte del giocatore. Cioè effettivamente se uno salta da non ricordo adesso i nomi dei livelli, comunque da quello più facile a quello più difficile, ci sono dei cambiamenti, non soltanto che posso dire nella mira delle squadre avversarie, diciamo, che si devono affrontare, quanto proprio nelle strategie di gioco che vengono adottate dall'intelligenza artificiale dei nemici, che rende il gioco molto interessante. Sì, io personalmente l'avevo preso con molto sotto gamba questo fatto, infatti installandolo ho cominciato subito dal livello super difficile. Devo dire che le prime missioni me ne stavo quasi per pentire, poi vabbè, insomma, poi l'esperienza prende la sua parte, insomma. Va bene. Comunque è un gioco molto consigliato, secondo me dovreste giocarci anche se non avete giocato al primo. Perfetto, vado velocissimo con la mia roba giocata, che è tantissima, e vado molto veloce. Allora, siccome sto preparando l'altro speciale sugli altri Mega Man X4, X5, X6, mi sono fatto una ripassata generale di tutte e tre. Ho finito l'X6 molto piacevolmente, e ne parlerò meglio quando farò lo speciale. Ho cominciato l'X7, che è un gioco obiettivamente fatto male, fatto malissimo, però vabbè, che dobbiamo fare? Essendo fan, uno si gioca pure i giochi fatti male. Intanto questa è... i giochi, diciamo, più corposi invece, anche possiamo dire recenti, che ho preso sono Amnesia e Portal 2. Allora, Amnesia e The Dark Descent è un gioco che volevo provare da tantissimo tempo. È stato premiato da tantissimi come un gioco horror, il gioco horror definitivo, in prima persona, eccetera. E avevo tutta questa voglia di provarlo, finalmente ce l'ho fatta, perché è un gioco che comunque è uscito, se non sbaglio, credo verso fine 2010. L'ho installato e lo sto trovando molto ben fatto. L'atmosfera horror c'è tutta, c'è un grandissimo gameplay fatto tutto di misteri, di enigmi, eccetera. Sì, mi ha piacevolmente colpito. Chi volesse, non lo so, chi volesse provare un'esperienza diversa dai soliti giochi horror che non siano survival horror con zombie, vampiri, eccetera, Amnesia, The Dark Descent è assolutamente consigliatissimo. Poi Portal 2, come sapete tutti, è uscito con 10 ore di anticipo rispetto a quello che aveva detto Valve, grazie a tutta l'iniziativa del potato SEC, che adesso non stiamo qua a ripetere perché ci sarebbe davvero tantissimo da dire. In pratica Portal 2 è uscito al momento in cui parlo, è uscito l'altro ieri, però io l'ho acquistato ieri, ho fatto più o meno 2 ore e mezza di gioco, 3 ore, e che c'è da dire? Allora, a me il primo Portal è piaciuto tantissimo. Sono un estimatore proprio un grandissimo estimatore del primissimo Portal, nonostante tutti i suoi difetti, nonostante fosse cortissimo, nonostante fosse facilissimo, eccetera. Il primo Portal a me ha colpito proprio piacevolissimamente. Quindi appena uscito il secondo Portal l'ho acquistato. Portal 2, quali sono le differenze? Alla fine è molto simile al primo Portal. La longevità, almeno per quanto ho letto, perché ovviamente ancora non l'ho finito, la longevità è radicalmente, dovrebbe essere radicalmente aumentata, mentre purtroppo mi sento di dissentire sulla difficoltà, poiché il primissimo Portal era... abbastanza facile, molto facile, e questo secondo Portal, almeno in queste prime 2 ore e mezza, 3 ore di gioco, è altrettanto facile. Ancora non ho trovato quell'enigma che mi faccia dire beh sì, in effetti è più difficile, adesso ci devo pensare di più, eccetera. Sono più o meno tutti enigmi semplici, almeno per ora. Comunque si vede anche che la storia è fatta meglio. Si vede che comunque ovviamente su questo Portal 2 Valve ci ha lavorato di più. L'ultimissima cosa su Portal è che c'è da dire che Portal era nato come un progetto universitario, come sperimentazione, ha avuto un successo strepitosissimo, insomma chiunque si definisca un nerd, un geek di rispetto comunque deve almeno provare il primo Portal per capire la grandezza, la maestosità proprio del gioco. Va bene, io ho finito i miei giochi, abbiamo finito tutti i nostri giochi. Ci sarebbe la mia parte personale che riguarda manga e anime. Siccome questi tre signori non sono molto, ecco, dentro questo argomento, staranno muti finché io non finirò la rubrica, vero? Ci riposiamo, ci riposiamo. Vi riposate, sarò tanto breve. Dunque, al via la super sigla della mia personalissima rubrica che si chiama Onigiri, e cerchiamo anche di essere abbastanza brevi. Via. Bene, questa era la sigla, adesso questo Nerdcast diventerà un mono podcast. Partiamo velocemente perché stiamo sforando davvero di tantissimo. Dunque, iniziamo dalle notizie più semplici, le notizie flash. Ha fatto discutere il fatto che Italia 1 abbia cacciato completamente dal palinsesto gli anime, gli unici anime del pomeriggio che erano ancora trasmessi erano Sailor Moon e Naruto, cacciati completamente, almeno Naruto, perché Sailor Moon viene spostato in prima mattina. Ovviamente varie proteste di tutti quanti, eccetera. Io continuo a dire che se qualcuno vuole vedere gli anime, non si rivolgesse a Mediaset. Gli anime sono trasmessi su Rai 4, per chi ce l'ha, anche su Manga, Cultoon, su Sky. Insomma, ormai Mediaset ha detto di voler puntare sulle sitcom universitarie, almeno ciò che dice nel comunicato. Passando avanti, qua ci sarà un po' da ridere in realtà. Sappiamo tutti benissimo che a maggio avremo il grandissimo Duke Nukem Forever. Uscirà finalmente il nostro Duke Nukem Forever. Dopo ovviamente anni di ritardi, e poi Garriden potrà dirne quante ne vorrà. Mio Dio. Insomma, perché cosa c'entra questo con i fumetti? Praticamente per l'uscita, per diciamo tra virgolette celebrare l'uscita di Duke Nukem Forever, verrà presentata una serie, una miniserie che si chiamerà appunto Duke Nukem Forever, fatta a fumetti. E quindi in concomitanza, diciamo, dell'uscita, diciamo, probabile del gioco, uscirà anche il fumetto relativo. Nota a margine, avremo edito da Panini Comics alla fine di del mese, di questo mese, avremo Kurohitsugi numero 1, finalmente in italiano, finalmente prima edizione. Detto questo, passiamo velocemente alla classifica di Weekly Shonen Jump per vedere i vari posti. Dunque, i primi 5 posti di Weekly Shonen Jump, questa volta abbiamo dalla prima alla quinta posizione Beelzebub, One Piece, Naruto, Bakuman e Magico. Sesta posizione per Bleach. Ultime 3 posizioni abbiamo Omagadoki che finisce, poi abbiamo Oken Shinsu no Shinigami, che sinceramente non ho mai visto, quindi non saprei neanche dire di cosa si tratti, e poi Munari Yonnomago, conosciuto in Italia come Signore dei Mostri, che è alla terz'ultima posizione, che per un manga come Signore dei Mostri è abbastanza precaria, però come sappiamo è una serie di grandissimo successo che comunque non verrà cancellata tanto facilmente, almeno per quanto mi riguarda. Andando a vedere le prime 5 posizioni, alla fine non c'è niente da aggiungere, insomma ovviamente abbiamo One Piece, Naruto, Bakuman. Buona anche la posizione di Bleach, di cui voglio dire qualcosa fra poco. E voglio parlare velocissimamente di Doisol. Doisol è l'ultimo nuovo manga, l'ultima nuova serie entrata in Shonen Jump. L'ultima nuova serie entrata in Shonen Jump. Sono usciti 9 capitoli fino ad ora. E si trova alla sest'ultima posizione. In realtà non ha mai abbandonato, diciamo, la parte medio-bassa della classifica. Doisol ancora non è stato tradotto, non ci sono le scan in inglese, quindi non vi posso dire precisamente come si presenta, però è l'ennesimo manga di calcio. Sembra leggermente diverso almeno dalla trama, ma diciamo, come sappiamo, su Shonen Jump abbiamo visto tantissimi manga di calcio. Vediamo questo che vita avrà. Per adesso non è sicuramente alle più alte posizioni, sempre più o meno la medio-bassa. L'ultima cosa da dire del mio spazio è riferita a Bleach. Adesso abbiamo detto Bleach. Ecco, che dire, è la sesta posizione. Secondo me la sesta posizione per Bleach è troppo. Cioè, io dico, Bleach è stato un manga, una serie fenomenale, pazzesca. Per un breve periodo anche, forse la mia preferita, più di Death Note. Ma il fatto di essere diventato quasi uno shoujo non lo so, io non so che dire. Ogni volta che vado a vedere un nuovo capitolo di Bleach rimango allibito. Sì. Rimango, ecco, anche il nostro Malloman che era... Io seguivo, anzi, accanitamente Bleach. Devo dire, come posizione il mio preferito in assoluto è Death Note. Poi c'era Bleach e poi Naruto. Diciamo, adesso Naruto è tornato in seconda posizione perché Bleach è scaduto veramente assai. Tant'è vero che gli ultimi anche l'ho letto, mentre mesi fa non vedevo l'ora che arrivasse la prossima settimana per leggere il nuovo capitolo. Ora, diciamo, per quanto nella saga di Aizen sono veramente rimasto veramente delusissimo da come sì, è finita. Assolutamente. Anzi, io mi ricordo capitoli 400 dal 400 al 415, quando praticamente si sono aspetta un attimo, chi non volesse avere spoiler andasse avanti, ecco, prego. Ah sì, scusate, sì, una spoiler, vabbè, ma non era una zona spoiler pesante. Vabbè. Diciamo, quando si riuniscono tutti i pezzi grossi, gli Yoruichi, il papà di Ichigo, no? Tu dici, mamma mia, ma diventa un combattimento pazzesco adesso. Poi invece ti esce la solita cacata tipo alla Dragon Ball, la stanza, cioè praticamente lo spazio precipizio, la stessa cosa identica della sua spada dello spirito e nel tempo dello spirito e del tempo di Drago. Sì, esatto, so, proprio lo scontro finale Ichigo Aizen è stato veramente di uno squallido, ti giuro. Ma guarda, ci sono rimasto veramente male, ti giuro, mi è caduto dal cuore Bleach in quei momenti. Sì, assolutamente, guarda, io là ho capito che Bleach stava arrivando proprio a dei livelli. Tra l'altro, nonostante la dello spirito e del tempo, non era più Aizen. Questa è la cosa, tra l'altro, ancora più pazzesca che non ha vinto per un di essere più potente, ma per cose che adesso non vi so spiegare, quindi leggetelo che è meglio, anzi sì, leggetelo e rimarrete delusi. Infatti non c'è niente da dire, Bleach sta diventando, posso dirlo, una merda. Gli ultimi capitoli sono una cosa improponibile, sono davvero... Io non so Tite Kubo che cosa si funge, guarda, ti giuro, disinteresse totale. Mentre invece devo dire Naruto invece è sempre un crescendo. È vero, sta iniziando a divenire il Naruto che conoscevamo, diciamo. Sì, assolutamente, sì sì. Comunque, dicevo, troppo me rammarica dire queste cose perché non so se ricordi com'è, ma tipo la saga della di Soul Society. Beh sì, quella ovviamente. Mamma, cioè, potevi leggere quei capitoli e vedere, ma io seguo anche l'anime, comunque voglio dire, era proprio bellissimo. Poi adesso ti trovi la stanza dello spirito e del tempo, sinceramente non è... Sembra quasi un altro anime, va. Sì, boh, io non so cosa pensare, sinceramente. Boh, non... Boh, forse non... adesso depresso Tite Kubo. Non so. Ma dico, ma come fai a trasformare una serie così potenzialmente magnifica? Anzi, magnifica, fino a un certo punto. E poi, boh, che ne so, ti leggi, che ne so, sembra la serie di... Boh, non so che dire. Capito, manca di serie B, capito? Quelle proprio cose. Boh, non si capisce, non si capisce. Senza il mio amore e il sapore. Vedremo, vedremo. Comunque, dai, ultima fase del nostro Nerdcast. Tutto rinnovato. Retrospace. Non abbiamo ancora la sigla perché non siamo riusciti a produrla, quindi accontentatevi del nostro jingle vocale. Non lo so, raga, date un jingle vocale. Retrospace. Bene. Retrospace. Ultima parte di Nerdcast numero 11. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringraziamo, anche se siete fanboy Apple vi ringraziamo. Chi vuole iniziare con il nostro gioco? Chi vuole iniziare col proprio gioco retro? Ah, Retrospace, ovviamente è la parte retro di... la rubrica retro di Nerdcast, dove parliamo un po' dei giochi retro che hanno segnato la nostra storia, perché è giusto anche ricordare i defunti. Sostanzialmente vi proponiamo quei giochi assurdi che nessuno si sarebbe mai sognato di giocare, perché se vi proponessimo i soliti classici li conoscereste già. Perfetto. Insomma. Chi vuole iniziare, uomini? Guarda, parto proprio io, va? Vai. Cosa allora, ci presenti? Guarda, vi porto un gioco abbastanza strambo, pochi lo conosceranno, ammetto. Datato, beh, più o meno il mio anno di nascita, dai. Del 1991. Datato più o meno la data di uscita di Duke Nukem Forever. No, questa era cattiva. Comunque, è 91, io sono del 92. Beh, il gioco è incredibile, si chiama D-Generation. Pochi lo conosceranno, a me mi ha sempre... Io non lo conoscevo. Come? Non lo conoscevo. Non lo conoscevi? È un gioco interessante, a me ha sempre emozionato il fatto che è probabilmente un antecedente, cioè, come dire, un lontano parente dei survival horror che giochiamo adesso. È ambientato al solito universo cyberpunk, tutto strano e futuristico. Scusami, per PC, vero? È un gioco per PC, sì. In realtà, se dobbiamo essere insomma, dobbiamo puntualizzare che era per Amiga. Non solo, anche per Amiga. Aveva anche un sistema di controllo abbastanza strano, perché era appunto a 6 bottoni invece che le solite 4 frecce, cioè c'erano anche le direzioni diagonali. Se vi trovate a giocarci uscirete un pochino pazzi, insomma. Però è un gioco interessante, devo dire. Si svolge su diversi livelli. La storia sostanzialmente parla di alcuni mostri che hanno, cioè, o meglio, alcuni diciamo un palazzo dove diciamo alcuni mostri mutati geneticamente, creati dal solito scienziato pazzo e folle che dovrete andare a riprendere. Ora, senza fermarci troppo sulla trama, che insomma nel 91 non erano più tanto complesse, onestamente parlando, il gioco davvero mostra dei puzzle interessantissimi, anche complessi alcuni, divertenti, pieno di cose davvero avanti per quel periodo. credo valga la pena giocarlo. Logicamente il gioco è disponibile solo in inglese, quindi datevi da fare con la vostra lingua inglese, ci sono un sacco di note da leggere e un sacco di cose che ispireranno i giochi futuri, sapete, condotti di aviazione, puzzle strani dove ci sono rimbalzi. Mi ricorda molto, è incredibile, io mi ricorda molto Portal per certi versi. Davvero? Sì, sì, devo dire, alcune idee sui puzzle, dei rimbalzi e queste cose strane mi fanno pensare un Portal. Sto esagerando, ma vale la pena, insomma, provatelo per voi e vi accorgerete che ha un senso. È un pochino, devo metterlo, come tutti i giochi di quel periodo, è davvero snervante il sistema di salvataggio che a volte fallisce clamorosamente e non vi farà divertire affatto, facendovi ricominciare la stessa cosa 47 volte. In bocca al lupo, se riuscite a finirlo, mandateci una mail perché siete dei giocatori tosti e diteci il vostro parere, insomma. Perfetto. Malloman. Malloman, prego. Sì, allora io presento invece un gioco che secondo me non è molto sconosciuto, ma comunque non fa niente, è sempre datato. Si tratta di Full Throttle, un gioco di LucasArts. Sì, nel 95. Tra l'altro ho scoperto dallo stesso autore di Grim Fandango. Sì, sì, sì, sì, certo. Beh, questo gioco è un'avventura grafica con, diciamo, un principio di RPG dove si ha l'interazione dei personaggi, bisogna risolvere gli enigmi proprio, cioè per andare avanti si devono fare determinate cose, interagire in un certo modo con i personaggi, combinare vari elementi un po' come Grim Fandango. Diciamo, la sua è ambientata in un futuro, possiamo dire, apocalittico, sì, dai. Comunque, diciamo, tutti i veicoli a motore sono stati abbandonati in favore di Craft. E la storia si concentra sul capo di una banda di ciclisti chiamata i Polkets, che però questi veicoli che loro usano hanno grossamente le ruote. E, penso sia tutto da dire. Ora non mi dilungo a stare con la trama. Poi se sì, volete, sì, va bene. Facilmente... È un'avventura grafica, l'hai detto? Sì, sì, l'ho detto. È facilmente comunque per il download. Credo che sia giocabile su Scum, no? Sull'emulatore. Sì, sì, utilizza. Se non sbaglio, utilizza il sistema Scum, sì. Quindi da provare con tutti gli altri Monkey Island al seguito. Ok, vado io, se Rampage permette. Permetto. Fury of the Furies. Allora, qua in realtà c'è poco da dire. Fury of the Furies è un gioco attualmente giocabile solo tramite DOSBox. Io l'ho conosciuto grazie solo al mitico Garriden, che io ringrazio tantissimo e che mi aiuterà a dire quanto è difficile questo gioco. Mio Dio! È una cosa pazzesca. È probabilmente uno dei giochi retro più difficili. Anche, c'è da dire comunque, a margine, nota a margine, che i giochi retro sono retro veramente solo se sono difficilissimi. Perché se non sono difficilissimi, non sono retro veramente. Ecco. Verissimo, dannazione. Eh no, perché se no non c'è gusto. Allora, in pratica... la storia è molto semplice. Ci sono questi, come possiamo definirli, queste pallette di pelo, che appunto sono i Furies, infuriati, da qua appunto Fury of the Furies, i quali praticamente hanno varie abilità ciascuno e tramite le varie abilità, tramite le varie furie, dobbiamo farci prendere strada tramite i vari livelli fino ad arrivare a praticamente al mostro finale che è chiamato semplicemente come The Machine, cioè la macchina, o meglio The Wicked One, se non sbaglio. The Wicked One è un gioco molto semplice in realtà, di meccaniche, è ovviamente un 2D e all'apparenza sembra davvero un user friendly. Poi praticamente dal secondo livello in poi praticamente vi pentirete solamente di essere di essere andati a scaricare un gioco del genere. Chiamasi giochi tarati male, sì. Sì, è una cosa pazzesca, è una cosa assolutamente pazzesca. Però, datato 1993, diciamo che possiamo definirlo un genere action, ecco. Per Amiga, PC e anche per Macintosh. Se volete, diciamo, perdere le staffe, proprio vi piace essere masochisti, giocatelo con piacere. Ultimo giochino presentatoci è quello di Rampage, prego. Perfetto, allora io rimango, diciamo, ancorato alla vecchia tradizione dei giochi da bar 2D. Quello che vi presento è il gioco grazie al quale io ho imparato effettivamente come nascono i bambini. Si chiama Pipi e Bibis, della Topland Production, se non sbaglio del 1991. Ed è un gioco che ovviamente era stato concepito per essere giocato con i gettoni del bar, mentre si è in costume scalzi con i piedi sulla sabbia. Il gioco consiste, diciamo, non ha una grande trama, la bellezza sta nel fatto che si è due o una spia, si può giocare in due, due omini dal naso particolarmente accettuato, che devono muoversi in dei quadri ovviamente bidimensionali, su cui a diversi livelli sono posizionati dei computer con delle bombe, che devono essere raggiunti dove bisogna posizionare le bombe senza farsi colpire, e, diciamo, scappando dall'inseguimento degli altri personaggi presenti nella mappa, che dopo 4-5 quadri diventano assolutamente impossibili, e ciò lo rende un gioco effettivamente retro, come sosteneva appunto Murtag prima. Ma c'è una gratificazione molto grossa, che in base a quanto sarete bravi a finire il livello morendo molto poche grossa volte, in tutti i sensi, diciamo. Esatto. In base a quanto sarete bravi a finire il livello morendo poche volte o anche in questioni di tempo e di punti, vi verranno mostrati dei pezzi, diciamo, che poi si completeranno ogni certo tot di quadri, che in questo momento non ricordo quanto sia, dei pezzi di ragazze che saranno svestite a seconda della vostra bravura. E quindi alla fine ogni 4 quadri più o meno vi potrete godere l'immagine della vostra donna denudata, sulla quale potrete anche muovere il joystick per scegliere le parti sulle quali vedere. Ovviamente, essendo un gioco giapponese, è del tutto censurato, quindi che lo rende un gioco particolarmente odioso anche per questo. Però sono effettivamente nude dietro quei pixel eccessivamente allargati. E niente, io ricordo che riuscii ad arrivare a un livello che non ricordo se fosse effettivamente il finale, ma era davvero avanti, con un amico giocando in due, e giocando in due fu difficilissimo. Ah, premetto che si può giocare soltanto con l'emulatore del MAME 32, che io vi invito a scaricarlo assolutamente, perché è un gioco estremamente formativo e necessario per il bagaglio culturale di un gamer che si rispetti. Va bene ragazzi, noi avremmo qualcos'altro da aggiungere, ma lasciamo stare perché ovviamente la lunghezza sarebbe eccessiva. Lo è già, diciamo. Sì. Bene, siamo arrivati alla fine di questa. Quattro logorroici siamo. Di questa. Ecco. Siamo arrivati alla fine di questa prima undicesima puntata di Nerdcast. Oh, che battuta. Che c'è rimasto da dire? Diamo i nuovi contatti. L'email del podcast è nerdocast con una O tra nerd e cast, @gmail.com. Il blog è www.nerdpodcast.blogspot.com. Su Facebook abbiamo il nuovissimo gruppo, basta digitare Nerdcast, vero? Sì, sì. Nerdcast. Twitter, il mio personale è del podcast, www.twitter.com/nerdfaz. Andate voi. Il mio è semplicemente Malmen. Okay. Il mio è Wish Freedom. Ok, Malloman, Wish Freedom, Garden. E infine, Devil Sir 92. Avete altri contatti da aggiungere o possiamo chiudere? No, no, ma forse è meglio aggiungere che dovremmo fare le nostre scuse per una puntata spaventosamente lunga e logorroica e indubbiamente senza tagli, lo dico da adesso, senza tagli. Senza tagli, ecco. Io non mi diciamo metto a tagliare che, una cosa di 2 ore e 40, no? Benissimo. È tutto in presa diretta e soprattutto sarebbe il caso di dire che la prossima volta vi daremo le sigle, è una promessa, è una promessa. Sì, sì, dai, dai. E sarebbe interessante dire per quando abbiamo programmato la prossima volta anche. Però adesso non siamo diciamo in grado di dirlo. Vorremmo avere una cadenza di 2 settimane a puntata, però vediamo. Noi per adesso rimaniamo a 2 settimane a puntata, dai. Benissimo. Detto questo, direi che possiamo salutarvi. Sì, tante care cose. L'ultimo pezzo. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualche cosa o andiamo con l'ultimo pezzo? No, no. Salutiamo io l'ultimo spettatore. Spettatori. Che la forza sia con te. E via. E va via con la sigla. Ok, ultimo pezzo, King Size 9 con One Wish e un ciao generale, alla prossima. Change my world, Lord, fulfill this one dream. Yeah, yeah, let it go, it's all.